si può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. 18:05 minuti, buonasera cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, ma se volete interagire in tempo reale con noi di Radio 24, noi di Si Può Fare, con me Alessio Maurizi, ma anche con la redazione Lorenzo Nespoli, Camilla Tomadini, Riccardo Poli, in regia questa sera Fabio Cantadori, ci trovate su Twitter, l'account del programma è @sipofare24, il mio è @AleMaurizi. E allora andiamo ad iniziare, copertina. Sì, sì, sì, no, no, no, sì, sì, sì, no, no, no. Allora, poniamo in votazione 1.28 nella parte separata. Allora, sospendo l'aula, sospendo la seduta, è sospesa. Voglio essere come più di aver, il mio trono dov'è? Il governo non può in qualche modo sottostare ad un ricatto, per così dire, ostruzionista. Avete sentito il presidente del Senato Grasso, mestamente, che provava a dar via alla votazione su uno dei gli oltre 8.000 emendamenti che ci sono, ma non è riuscito, tra i fischi ha dovuto sospendere la seduta. Voglio dire, se iniziamo così, come facciamo ad arrivare, ma non dico entro l'8 agosto, ma nemmeno entro l'8 settembre, una data che in qualche modo potrebbe anche essere negativo auspicio, però insomma... come si fa ad andare avanti così? Non è possibile, non si riesce a votare. Perché? Perché non si vota l'emendamento? Ma probabilmente, a quello che siamo riusciti a capire, era un emendamento di SEL sul Senato elettivo, che però votato e non approvato quello avrebbe fatto cadere come i birilli del domino uno dopo l'altro tanti altri emendamenti in tutto e per tutto somiglianti, e quindi diciamo avrebbe spuntato le armi all'ostruzionismo dell'opposizione. Va bene, avete sentito anche il ministro Boschi che piccata diceva: non possiamo sottostare al ricatto dell'opposizione. La giornata era iniziata invece con migliori auspici, cioè sembrava che il lodo Chiti potesse diciamo aprire il via ad una mediazione tra la maggioranza e l'opposizione, che ha portato appunto 8.000 emendamenti alla riforma del Senato, mediazione che sarebbe stata questa: diminuire un po' il numero degli emendamenti, in cambio il governo avrebbe dovuto aprire una trattativa su alcuni punti richiesti dalle opposizioni, sul famoso senato elettivo oppure sull'immunità dei senatori o sul numero dei deputati o anche sul numero di firme necessarie. Questa è una cosa che sta a cuore a SEL per indire un referendum, che sono state aumentate da 500 a 800.000 firme, insomma tutte cose che avete o non avete letto sui giornali. Invece poi la mediazione appunto è saltata. Adesso cercheremo di capire anche perché si è messa di mezzo SEL, che ha, di questi 8.000 emendamenti 5.900 sono proposti proprio dal partito di Vendola. Sentiremo il coordinatore Fratoianni tra poco, ma adesso anche Zanda, il capogruppo del PD al Senato. Accolgo con rispetto l'indicazione del senatore Chiti, perché le votazioni comunque terminino entro la giornata dell'8 agosto come da calendario. Noi in quest'aula desideriamo il Senato elettivo. Se c'è questa disponibilità da parte del governo, noi andiamo avanti, altrimenti portiamo l'ombrellone qua e ci facciamo tutta l'estate. Anche perché, signor Ministro, il problema non è il nostro, il problema è del presidente Renzi, che finalmente deve cominciare a lavorare anche in agosto. Ci facciamo tutta l'estate qua, ha detto Danna di Gal. E quindi questi sono i due punti di vista: Zanda, che esprime quello della maggioranza e del governo, che dice molto tranquillamente: no, l'8 agosto ci fermiamo, esaminiamo questi emendamenti, poi riprendiamo coi voti voti a settembre, con le dichiarazioni finali di voto e il voto finale sulla riforma a settembre. Danna di Gal, che esprime in questo momento insieme ad altri tutto il sentire dell'opposizione, dice: no, staremo qua fino anche oltre Ferragosto con l'ombrellone, faremo l'estata qua e faremo lavorare anche Renzi finalmente. E poi c'è Calderoli, correlatore della riforma. Deve esserci, non dico uno spirito costituente, ma uno spirito di disponibilità da parte di tutti, soprattutto da parte del governo, perché io sono stanco di lavorare, di tessere, come si suol dire, la tela di giorno, di trovarmi d'accordo con la correlatrice, con esponenti del governo, con i tecnici, con l'80% delle forze politiche rispetto a una determinata modifica, e poi si arriva: no, il governo non vuole. Eh no, non funziona così. Calderoli che dice: stanco di lavorare, ma non che è stanco di lavorare, stanco di tessere la tela come di questa riforma di cui lui è correlatore. E poi però dice lo stesso PD, come sapete, con i dissidenti interni, poi di notte sfa quello che è stato fatto di giorno. Va bene, questo per quanto riguarda il capitolo riforme. Adesso invece qualcosa anche sul capitolo Tavecchio. Intanto, prendiamo atto del progressivo sfilarsi delle società di calcio. Sappiamo già della Fiorentina, della Sampdoria, la Juventus, la Roma, il Cesena, oggi anche il Sassuolo. Direte voi, cosa c'entra il Sassuolo? Beh, il Sassuolo intanto è una squadra professionistica di Serie A, di Serie B, di Serie A, dipende, ma è la squadra del presidente di Confindustria, soprattutto Squinzi, quindi ha un peso, se vogliamo. Infatti Lanza titola il Sassuolo di Squinzi ritira il sostegno a Tavecchio. Sentiamo qualche frase attorno a questa questione, l'ex ministro Chieng. Diciamo che è scivolata su una buccia di banana, la famosa banana ormai sta facendo strage. No, quando per esempio mi avevano buttato le banane, io avevo detto probabilmente qualcuno non aveva niente da fare, non ha mai subito la fame, doveva comunque andare a imparare qualche ricetta per mangiare le banane. Difficile che io vada a generalizzare dicendo un partito è razzista. In questo caso spiego perché dico la Lega è razzista, perché quando una persona si presenta in un tal Ranieri, del dirigente della Lega dell'Emilia Romagna, si presenta per difendersi al processo con l'avvocato del partito, vuol dire che il partito condivide in pieno le sue dichiarazioni. Vi spiego perché la Lega è razzista, dice la Chieng, perché porta l'avvocato della Lega a difendere un esponente della Lega in un processo per affermazioni razziste. Quindi secondo lei c'è questa assimilazione tra il partito, come sapete spesso Maroni prima, ma adesso il neo segretario Salvini hanno sempre detto sono affermazioni di casi singoli, ma la Lega non è un partito razzista. Va bene, invece Gasparri dà della razzista in questo dibattito proprio alla Chieng, sentite perché. Onorevole Chieng, lei è contro l'uccisione dei cristiani in alcuni paesi africani? Lei ha capito di cosa stiamo parlando? Ha capito di cosa stiamo parlando? Lei è un po' razzista. Io perché non sono risponde razzista, ma sono sull'uccisione le sue dei cristiani quattro volte, non ha risposto. Ma siccome questo è un programma anche di buone notizie, le mettiamo qua e là per digerire un po' meglio l'attualità. C'è una buona notizia: è stato approvato il decreto cultura. Una buona notizia, è da interpretare naturalmente, ci sono dentro moltissime cose, però insomma, stando ai primi commenti, alle prime reazioni, sembra che ci sia qualcosa di buono. C'è l'art bonus per le donazioni a favore dei beni culturali, cioè un'ampia quindi detraibilità di chi fa donazioni, ma anche dei musei e dei teatri che investono quindi per rilanciare la cultura. Semplificazioni per il rilancio di Pompei, la Reggia di Caserta, rilancio delle fondazioni lirico-sinfoniche, tax credit per il cinema. È tutto un po' da decifrare. Il giudizio di Sgarbi, che dice in questo governo di nani c'è un solo ministro che giganteggia, ed è proprio Franceschini. La fortuna ha voluto che Franceschini sia l'unico politico di un governo di fantasmi, dominato da un premier che ha una visione assolutistica del potere e che non dà spazio ad alcun ministro. Questo è il giudizio di Sgarbi, inatteso se volete, perché insomma non è che stiano proprio sulla stessa sponda politicamente parlando Sgarbi e Franceschini, anzi. Va bene, chissà se Franceschini se ne farà un vanto di questo apprezzamento di Sgarbi. Sgarbi che è rientrato in pista come? Come ambasciatore della Lombardia per Expo, nominato da, da Maroni. Io non me l'ero neanche accorto, ieri è sui giornali di oggi. E va bene, insomma, a voi di giudicare se è un ruolo che è giusto o sbagliato, se è la persona giusta per un ruolo che ci deve essere, ambasciatore della Lombardia all'Expo. Subito Sgarbi ha fatto parlare di sé proponendo di portare i bronzi di Riace proprio a Milano, no? Trasferimento quantomeno impegnativo. Qualcuno gli ha detto no, beh, bisogna che i turisti vadano giù in Calabria a vederli i bronzi di Riace, però non ha tutti i torti Sgarbi, nessuno dei turisti che verranno per Expo andrà a vedere i bronzi di Riace laggiù dove sono, probabilmente, e quindi portarli qua potrebbe anche essere, perché no, una proposta. Vi voglio far sentire anche Grillo, anche se è di ieri, perché in tutto questo bailam sulla riforma del Senato sembra che il vero assente sia il Movimento 5 Stelle. Insomma, si sono fatti fregare un po' il ruolo in questo momento, forse da Sell, che ha posto, dicevamo prima, 6.000 degli 8.000 emendamenti che stanno bloccando la riforma del Senato al Senato. Sentiamo un po' Grillo. Questo paese economicamente è per terra e questa gente sta facendo una manovra adesso fino all'8 agosto che è senza precedenti. Va bene, fermiamoci qua, vi voglio leggere un'ultima dichiarazione, forse l'ha già data il giornale radio, il patron della Roma Pallotta, che ha usato parole pesanti contro Tavecchio, ha umiliato l'Italia, il patron della Roma, il presidente della Roma, no, non so se è il presidente della Roma, ma insomma il proprietario della Roma Calcio, che dice testuale a proposito di Tavecchio, con queste frasi qua sulle banane e sugli stranieri, ha umiliato l'Italia, letterale. Si può fare l'attualità anche d'estate. 800 24 0024, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, naturalmente in diretta. Adesso fra poco sentiremo anche i vostri interventi. Abbiamo chiuso però la copertina dicendo che la piccola pattuglia parlamentare di SEL, il partito di Vendola, Sinistra Ecologia e Libertà, sembra che stia monopolizzando un po' l'opposizione in questo momento, in questa fase di ostruzionismo alla riforma del Senato, togliendo in qualche modo un po' lo scettro al Movimento 5 Stelle. Di fatto molti degli emendamenti proposti sono proprio di SEL che oggi, insieme al Movimento 5 Stelle e anche alla Lega, però si è opposta al cosiddetto lodo Chiti. Ne parliamo con Nicola Fratoianni, che è il coordinatore proprio di SEL. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, voi avete detto no al lodo Chiti, semplificazione giornalistica, che starebbe a dire il ritiro di alcuni di questi tanti emendamenti alla riforma del Senato in cambio della disponibilità del governo a trattare su alcuni di questi punti. È così? Perché avete detto no? No, non è così. Abbiamo detto sì al lodo Chiti. Il punto è che il lodo Chiti è stato immediatamente ridotto a una cosa molto diversa. È sembrato dalle parole del capogruppo Zanda, ma anche dalle fonti di Palazzo Chigi, che il tema fosse votare invece che l'8 agosto il 2 di settembre, e cioè votare tutti gli emendamenti con gli stessi tempi previsti dal cosiddetto contingentamento per poi fare le dichiarazioni di voto finali il 2 settembre. Abbiamo detto con molta serenità che non abbiamo fatto questa battaglia parlamentare per perdere una settimana di tempo. Non siamo frenatori, non siamo gufi e neanche la palude che tante volte è stata evocata. Abbiamo delle opposizioni nel merito, siamo d'accordo col superamento del bicameralismo, non siamo per la conservazione. Abbiamo detto però, primo, se il Senato deve rimanere, forse il Senato deve essere scelto. Quindi mi pare che siamo in sintonia con la grande maggioranza degli italiani, che in ogni rilevazione ci dicono che se il Senato ci deve essere votato dagli italiani, altrimenti abbiamo detto eliminiamolo. Come si vede, una posizione tutt'altro che conservativa, siamo disposti anche a eliminarlo del tutto, non abbiamo problemi di questo tipo. E poi abbiamo detto ci sono alcune questioni su cui si può intervenire. Il referendum abrogativo, per esempio, è stato innalzato il numero delle firme da 500 a 800.000. Per le leggi di iniziativa popolare da 50 a 250.000. Però scusi, mentre si fa una riforma così, si riducono anche gli spazi per gli strumenti della partecipazione. Su questo però, mentre sul fatto dell'elettività del Senato ci sono dei sondaggi che confermano quello che diceva lei, sul fatto però delle firme per il referendum, non si è detto in passato molte volte che se ne sono fatti troppi referendum e quindi alzare il numero di firme era un modo per, come dire, disincentivare un po'? Abbiamo fatto tornate con credo anche 20 referendum. Ma bisogna vedere come sono utilizzati. Disincentivare però l'utilizzo della democrazia non è un eccezionale strumento. Si è discusso per esempio sul fatto di ridurre il quorum, quando il quorum per le elezioni politiche, diciamo, si misura sul numero dei votanti, e quindi magari di riportarlo al dato delle ultime elezioni politiche. Ci sono altre vie per rendere più efficaci alcuni strumenti. Certo, renderli più difficili nel momento in cui si toglie l'elettività al Senato e lo si trasforma in una cosa un po' pasticciata, si toglie l'elettività ad altre istituzioni. Anche qui ci hanno spacciato per mesi la grande rivoluzione dell'eliminazione delle province. Come si vede, le province restano con le loro funzioni, ci sono oggi anche le aree metropolitane, quello che non c'è più sono le elezioni. Tant'è che qualcuno ci ha proposto... Cioè voi dite, restano gli organi ma non ci sono più le elezioni. Cioè, è un po' curioso. Allora, io dico togliamo gli organi, però ripeto, non sono per conservare. Adesso possiamo magari entrare anche nel punto di qualche altro punto della riforma che voi e le opposizioni contestate. Però oggi Lotti del PD, sembra una presa di posizione di tutto il partito, dice a questo punto compromesse ogni possibilità di alleanza con SEL. Sembrava invece quasi fino a ieri, nei giorni scorsi, che si parlasse di un riavvicinamento tra Vendola e Renzi. Ma devo dire che la reazione di Lotti è una reazione che mi pare denunci un po' di nervosismo, mi pare una reazione stizzita che ha poco a che fare col dibattito. Noi oggi abbiamo fatto una conferenza stampa e abbiamo detto siamo pronti a rimuovere l'ostruzionismo, cioè eliminare la gran parte di quegli emendamenti che non sono burla, perché lo voglio ricordare, i famosi emendamenti che dicono cambiamo il nome del Senato in Duma, in Gil, non li abbiamo fatti noi e sono già stati dichiarati inammissibili, come era ovvio, ma gli emendamenti ripetitivi, quelli che servono a fare l'ostruzionismo, abbiamo detto siamo pronti a toglierli a patto che ci diciate su che cosa siete pronti a modificare la vostra posizione. Siccome ci hanno detto no, prima togliete gli emendamenti e poi si discute, francamente si capisce che così è difficile fare una discussione, no? Quanti sono gli emendamenti? Quanti sono gli emendamenti che sono rimasti adesso, dopo quelli che sono decaduti? Non si sa. No, la gran parte degli emendamenti noi li abbiamo scritti per bene, quindi ci sono ancora tutti, ce ne sono una quota che, come si dice, sarà cangurata, cioè in termine tecnico sarà accorpata, quelli molto simili verranno emendamenti simili. No, devo dire a onor del vero che Fratoianni è alla Camera, quindi se anche non sa il numero di emendamenti al Senato è giustificato da questo punto di vista. Però mi interessa sapere cosa farete a questo punto, il nodo politico, cioè sembra che in qualche modo state strappando lo scettro dell'opposizione momentaneamente a quasi anche al Movimento 5 Stelle con questa mossa che avete fatto, però vi siete bruciati, sembra, la possibilità di alleanze future con il PD. Andrete avanti? Ma sa, noi le alleanze le facciamo sui contenuti. Se qualcuno pensa di dire a Sinistra Inclusione Libertà che per allearci con noi dobbiamo rinunciare a fare l'opposizione in Parlamento, ad un governo, una riforma che non ci convince, ha sbagliato indirizzo. Noi non facciamo ricatti, però non siamo neanche ricattabili, e francamente quando diciamo al governo e alla maggioranza siamo pronti a rimuovere gli emendamenti a patto che si apra una discussione e che ci diciate quali sono gli elementi. Faccio un altro esempio: hanno detto, forse anche grazie al nostro ostruzionismo, che ora vogliono fare comunque il referendum confermativo. Bene, ci dicano come si fa, perché l'articolo 138 della Costituzione stabilisce che si possa fare se non ci sono i due terzi del voto in Parlamento. Ci dicano come si fa, si fa una legge apposta, si modifica il 138, si impegnano a fare in modo che una parte dei loro senatori non votino la riforma per non avere due terzi. Dicano qualcosa oltre agli annunci via Twitter, perché la comunicazione via Twitter è utile, veloce, anche brillante, però non sempre è sufficiente a dare un quadro. Ma come si vede, noi siamo pronti a discutere, non siamo più né arroccati. A proposito... La risposta però è quella che è arrivata da Lotti, ripeto, noi non ricattiamo, ma non siamo ricattabili. A proposito però del rapporto col Movimento 5 Stelle, intanto rilancio un numero verde 800 24 00 24. Cari ascoltatori, voi cosa ci avete capito della giornata di oggi e delle ultime giornate sulla riforma del Senato e tutte queste, lo dico così, manfrine, poi la politica è fatta anche di questo. Però dicevamo, a proposito del rapporto col Movimento 5 Stelle, c'è un riavvicinamento o fa parte del vostro DNA con Grillo? No, non c'è, perché abbiamo forse culture politiche molto diverse. Noi proviamo a fare il nostro mestiere. Peraltro, anche quando in questi giorni, in queste settimane, abbiamo sviluppato una posizione più forte sul tema della riforma, come si è visto, non abbiamo mai ceduto all'urlo populista, mai abbiamo detto che c'è un colpo di Stato, che c'è il pericolo di un nuovo fascismo. Abbiamo detto questa riforma non ci convince, vogliamo riformare le istituzioni, lo abbiamo proposto, stava nel nostro programma elettorale il superamento del bicameralismo. Però questa riforma ci sta sbagliata, che non c'è i risultati per la quali è stata pensata, diciamo, messa in campo. Da questo punto di vista, il fatto che le opposizioni possano in aula e su alcune questioni convergere è un elemento che fa parte anche qui della dinamica politica, ma non, diciamo, perfino normale, insomma. Sì, sì, beh, certo. Non è che però retropensiero, no? Non è che però sotto sotto c'è la paura dei partiti piccoli relativa alla legge elettorale che vi taglierebbe fuori, e quindi diciamo si fa ostruzionismo sul Senato, ma in realtà si punta a qualcos'altro, cioè a non essere tagliati fuori con la legge elettorale. Sorrido, mi perdoni, per un motivo semplice, perché noi non abbiamo, come dire, su questo punto non abbiamo nessun tavolo sotterraneo, mentre scopriamo nelle ultime ore che il famoso patto del Nazareno avrebbe pure una carta scritta di cui però nessuno, diciamo, ha potuto leggere il contenuto. Questo cambierebbe le carte in tavola per voi? Non abbiamo fatto, beh, insomma, ci parrebbe forse un fatto, come dire, di trasparenza, renderlo pubblico. Se ci fosse davvero una carta, io non lo so, qualcuno l'ha detto, di autorevole Toti. Sono io, è stato Toti qualche giorno fa. E tuttavia il punto è questo: noi non abbiamo mai posto elementi di trattativa né sotterranea né segreta, abbiamo detto in pubblico che per noi l'Italicum è una legge sbagliata, lo è in particolare nel rapporto con la riforma del Senato, perché la dico così: in questo momento quello che si profila è, diciamo, la riforma dell'asso pigliatutto, in cui una minoranza, seppur la più grande tra le minoranze, ma una minoranza degli italiani, può contemporaneamente avere la maggioranza, grazie al premio di maggioranza, avere il governo, eleggere il Presidente della Repubblica, eleggere i giudici costituzionali, eleggere i giudici del CSM, cioè tutti gli aspetti del paese. Così non funziona, è proprio evidente. Allora, diciamo, sulla legge elettorale noi non facciamo una trattativa per celle o per il nostro interesse, diciamo, facciamo così: primo, alziamo la soglia per avere il premio di maggioranza dal 37 al 40%, facciamo però una soglia di accesso uguale per tutti. Però Renzi ha detto che ha lasciato aperto il campo a modifiche sulla soglia e anche sul premio. Benissimo, si facciano le preferenze, per esempio, per garantire che gli italiani possano scegliere almeno quella Camera, se resta l'unica elettiva. Si faccia la doppia preferenza di genere per garantire che ci siano anche le. Ma oggi, Fratoiani, a parte che abbiamo un disturbo sull'audio, purtroppo, speriamo di riuscire a chiudere l'intervista, forse non ci sente nemmeno. Fratoiani, oggi però è stato votato un emendamento sulla parità di genere, mi pare, o no? Passata una cosa. Non so se ho visto a un certo punto un flash di lanza, ma non niente credo di definitivo. Un'ultimissima cosa prima di salutarci. Certo, credo per tutti. Prima di salutarci, perché poi abbiamo la borsa, ma alla fine, ma Vendola va in Canada o resta in Italia? No, Vendola sta qua, l'ha detto più volte, il Canada è troppo freddo. A lui piace la Puglia, il clima della Puglia. Chi è nato in Puglia difficilmente può vivere in Canada, francamente. Va bene, quindi tutto prosegue. Va bene, buona serata, grazie, buon lavoro. Nicola Fratoiani, coordinatore di SEL. Si può fare l'attualità anche d'estate. Intanto su Twitter Mistakeness ci fa notare che Sgarbi e Ferrara sono della stessa sono di Ferrara, cioè della stessa città, e questo, diciamo, li accomunerebbe in una sorta di fratellanza di campanile. Ecco perché Sgarbi aveva già parlato bene in passato di Franceschini. Questa è un'ipotesi, una interpretazione. 800 24 00 24. Però fatemi dire ancora una volta che queste frasi di Pallotta, il patron della Roma, sono secondo me importanti, pesanti. Ha umiliato l'Italia, a proposito di Tavecchio. Ora uno potrebbe dire: ma cosa ne sa l'americano, no, di cosa viene a interferire nei fatti italiani? No, io non la vedo così. Cioè, parliamo di uno, a parte che ha investito dei soldi, bisogna vedere poi se ci saranno davvero questi soldi, che ha investito nella Roma Calcio rilanciandola, ma al di là di questo parliamo di uno che viene dall'America, paese nel quale il proprietario di una squadra di basket è stato radiato dall'NBA per una frase, diciamo, forse un po' più forte di quella di Tavecchio, ma è stato radiato a vita dall'NBA, quindi è un paese dove non si sgarra. E lui dice: questo Tavecchio ha umiliato l'Italia, letteralmente. Va bene, ascoltatori, all'800 24 00 24, cominciamo con Anna che ci chiama da Roma. Buonasera. Buonasera, però ti chiedo la presentazione No, non la sentiamo, Anna, la richiamiamo dopo perché proprio non si sente nulla. Francesco da Cagliari. Salve, buonasera. Buonasera. Volevo dire la mia sulla questione delle riforme costituzionali. Certo. Sono completamente autoreferenziali, specifico referenziali, perché non c'è nessun mandato popolare, non c'è stata nessuna richiesta in campagna elettorale di fare accordi con i finti nemici da una vita, PDL, PD meno L, è tutto autoreferenziale. In PD meno L, ma lei è un grillino, parla come Grillo? Francesco, lei... Io parlo come un cittadino consapevole che ha a cuore la sua Costituzione. Sì, però mi scusi, perché non c'è mandato, c'è un mandato elettorale, sono tutti parlamentari eletti. Ma io vedo che c'è gente che ha giurato sì. sulla Costituzione di difenderla e tutelarla e invece la sta smontando. A colpi di maggioranza, ma stiamo scherzando, la nostra Costituzione che tutela le minoranze. Però scusi, tra smontare e riformare qual è la differenza? È difficile, è sottile. Se la Costituzione deve essere attuata e non è mai stata attuata e la Seconda Repubblica è fatta in barba alla Costituzione, tutte le riforme costituzionali sono state bocciate dai cittadini perché nel corso di 20 anni le hanno tentate tutte, dalla devolution che poi che addirittura poi si sono inventati il federalismo fiscale. Cioè, ma secondo lei scusi, bisognerebbe rinunciare proprio a modificare la Costituzione, l'ordinamento, il Senato va bene così, il bicameralismo perfetto va bene così. Fa, le abbiamo bocciate noi cittadini abbiamo il referendum. Sì, abbiamo bocciato quella riforma. Noi vogliamo 8 anni fa. Francesco, abbiamo bocciato quella riforma nel 2006, non altra, quella. Quella. Adesso si sta parlando di un'altra cosa. Se ne vantano anche, scusi, ma stiamo scherzando. Alcuni aspetti. Ma loro dicono che è stato il PD che non l'ha accettato, ma se fossero anche stati tutti d'accordo, i cittadini non l'avrebbero confermato, come è successo per il referendum sull'acqua. Erano tutti d'accordo che l'acqua va pagata, ma i cittadini sono andati a ricordargli che l'acqua è un bene pubblico, è quello che è pubblico e dei cittadini e non può essere sottomesso al pagamento o al reddito. I diritti vanno riconosciuti ai cittadini, non in base al reddito, al lavoro che fanno. Va bene. Qui è uno schifo tuo, cioè qui in poche parole stiamo facendo delle riforme a camera. Abbiamo capito, questo concetto mi pare che l'abbia espresso chiaramente. Grazie Francesco, buona serata, stia sempre con noi, nostra compagnia. Mario da Torino, buonasera. Sì, salve, io credo che abbia ragione chi ha detto che bisogna sapere di cosa tratta questo patto del Nazareno. Perché tutto il problema nasce da lì, voglio dire, se tu hai un elettore del Partito Democratico per 20 anni, hai, o di sinistra, insomma, di centrosinistra, hai insegnato che Berlusconi è un nemico, che Berlusconi è quello che è, un impostore, un delinquente, poi fai un patto segreto tu con Berlusconi, leader del Partito Democratico, e tu leader del Partito Democratico. È chiaro che i sospetti aleggiano, è chiaro che c'è un sospetto per la democrazia. Però questa cosa qua, mi scusi Mario, ma questa cosa ci porta un po' indietro al momento in cui è stato fatto questo accordo del Nazareno, che poi se doveva essere segreto, mi segua la logica, se era un patto segreto, fosse stato un patto segreto, non l'avrebbero fatto al Nazareno davanti a tutti, no? Avrebbero fatto come altre volte accade, incontrandosi senza farlo vedere a nessuno. È il patto segreto più pubblico che ci sia mai stato in Italia, questo qua. Vabbè, ma cos'è il patto Molotov-Ribbentrop? Non lo so, questo lo dice lei. Fino a quello si è saputo di cosa si trattava. Voglio dire, questo qui non si sa se c'è un foglio scritto, non c'è un foglio scritto, entro quali termini viene fatto. È chiaro che io non sono un simpatizzante di 5 Stelle, ma qualsiasi opposizione logica ha dei sospetti rispetto a questo tipo di situazione. Mi sembra evidente, mi sembra normale. Ma scusi, ma due politici si incontrano, decidono di fare alcune riforme, dicono con dichiarazioni che ci sono dei punti, questo è quello che è successo. Poi uno si può decidere di non fidarsi di quello che è stato detto, però perché da Renzi e da Berlusconi, ma perché avrebbero dovuto fare un incontro pubblico per mettere in piedi un accordo segreto e poi darne una versione pubblica diversa davanti all'opinione? Cioè, sarebbe stata una follia assoluta. C'è semplicemente il tentativo di tenere Forza Italia dentro le riforme, mi sembra, da parte di Renzi. Per 20 anni hai detto a questo paese. Vabbè, ma questo poi è cambiato. È arrivato Renzi, è stato eletto, mi scusi. Hanno Mario, è stato eletto. Mario, mi scusi, ma lei è rimasto indietro su una cosa. Renzi ha vinto le primarie del Partito Democratico con le idee che aveva, cioè lo sapevano quelli che l'hanno votato del PD, tutti, che lui non era un nemico giurato di Berlusconi da questo punto di vista. Quindi, però questo è nelle regole, no? Della democrazia, è stato votato alle primarie. A me non sembra, comunque. Ma non le sembra, ma è così però. No, non è così, perché sono due partiti diversi. Cioè, poi lei potrà essere in disaccordo, ma... È sempre lo stesso, non è cambiato. Voglio dire, l'elettore che dà il voto del Partito Democratico è sempre lo stesso, per 20 anni. Ma poi non voglio dire, magari è una cosa positiva, però venga esplicitato, venga fatto conoscere dall'elettorato. Perché tutto quello che genera il sospetto... Lei è perplesso su questa cosa del Nazareno, poi adesso è ovvio che il fatto di quello che ha detto Toti, cioè di questo papello scritto, di questo appunto scritto che ci sarebbe, ha come dire, riacceso un po' la miccia, ha rinfocolato un po' questa polemica, perché chiaramente qualcuno dice, forse anche giustamente, ma allora fateci vedere cosa avete scritto. Però, a quanto si è capito, non era un testo di un accordo, era un elenco di punti. Secondo me Toti ha visto la scaletta dell'incontro scritta da Verdini, ma non era quello il testo dell'accordo del Nazareno. Questo almeno è quello che ci ha detto ieri Gasparri, ma a me è sembrata una spiegazione plausibile, verosimile quantomeno. Cioè, si fa presto a costruire un polverone enorme su un appunto di due parole che appunto era la scaletta di un incontro, pensando che dietro c'è chissà che cosa. Poi a pensare male si fa peccato ma non si sbaglia, diceva Andreotti. In questo caso secondo me si sbaglia pure. Alpia dalla provincia di Milano, buonasera. No, non c'è. Sì, c'è, buonasera. Senta, io ho sentito un po' di cose che non sono state passate come buone, ma in realtà non è colpa sua, per carità. Da quello che ha detto che l'80%, perché non il 90%, degli italiani sarebbe a favore delle preferenze per il Senato, sì. Questa è una cosa assurda, non so su che cosa si basa, addirittura... o a favore o per togliere. Cioè lei non è a favore delle preferenze, lei non gli interessa esprimere una preferenza. Poi c'è stato uno di 5 Stelle, sì, che ha parlato del referendum, ma non si ricorda che è stato un referendum votatissimo, con feste in piazza e tutto, che ha abolito le preferenze. Il popolo italiano le ha abolite, le preferenze. Sì, non sono mai state una cosa... principale, perché negli altri paesi civili non ci sono, uno vota il partito, basta. Va bene, poi, grazie ad Alpia o ad Alpia, no, ma lei non mi sente, non siamo riusciti a parlare, da Milano. Graziano da Bologna. Buonasera carissimo, complimenti. Siamo qua. Sarò breve, parlo di Tavecchio, cioè sì. Io mi meraviglio di quelle società che non si associano al dissociamento di Tavecchio, perché una persona che dice una cosa del genere e che è candidato alla presidenza, mi meraviglio che ci siano dei presidenti che lo leggono ancora. Cioè, qui vuol dire che lo sport è come la politica, cioè ci sono compromessi, ci sono tutte cose sporche veramente che fanno schifo. Poi vedere uno come Albertini, che secondo me è una persona pulitissima, che secondo me sarebbe il nuovo del calcio, e questi vogliono eleggere Tavecchio nonostante che abbia detto queste cose del genere. Io mi meraviglio, cioè non si potrebbe neanche più discutere di una cosa così, e questo mi meraviglia veramente tanto. Io sono uno di quelli che andavo allo stadio e non ci vado più da 20 anni, perché l'ultima volta mi è arrivato un sasso a 1 centimetro dalla testa, quindi non ci andrò mai più, capito? Tutto lì. Graziano, che dire, non c'è bisogno di commenti al suo intervento. Grazie, buona serata. Bruno da Verona, poi andiamo in pausa. Bruno, buonasera. Sì, buonasera. Senta, io sono un autista, sto camminando per strada e sto sentendo la sua trasmissione, bellissima. Però vorrei dire una cosa a tutti questi politici, a cominciare dal primo ministro Renzi. Ma si rendono conto, si facciano un giro per l'Italia, guardino le industrie, le piccole industrie, le piccole fabbriche, tutto quanto che sta chiudendo, l'Italia sta morendo, e questi pensano a litigare lì in Parlamento. Il Senato lo vogliono abolire, lo aboliscono, 350 persone, 400 persone, meno costi per la politica, meno costi, no, che stanno facendo un altro pastrocchio. La verità è questa. Questi ci stanno prendendo da capo per i fondelli e non si accorgono che l'Italia sta morendo. Vabbè, adesso anche questa retorica dell'Italia che sta morendo, c'è crisi, c'è difficoltà sicuramente, però per esempio c'è il dato di oggi sulla fiducia delle imprese, guardiamoli anche i dati che vanno in controtendenza. Sarà che io faccio un programma che si chiama Si può fare, che cerchiamo sempre di trovare delle buone notizie, però insomma non il paese che sta morendo mi sembra un po', sì. La buona notizia lo sa qual è? È che per esempio oggi mi ha telefonato un amico mio, a Campo Galliano c'è un deposito della Coca-Cola. Tutti in mobilità, via, tutti in mobilità. Questo è, 70 persone, tutte quante in mobilità. No, ma che ci siano delle grosse difficoltà nelle, che l'occupazione arranchi e che il PIL sia fermo, questo non lo mette in discussione nessuno. Quindi c'è la crisi, è la retorica del paese che sta morendo che mi sembra un po' esagerata. Anche perché ci impedisce, secondo me, poi di metterci sulla strada per ripartire, per riprovarci. Se stiamo lì a piangerci addosso, il paese che sta morendo, siamo già morti. Ci vuole buona volontà, i nostri politici la buona volontà non ce l'hanno. Si facciano un giro per l'Italia. 800 24 00 24, c'è Pierpaolo che ci chiama da Siena. Buonasera. Sì, buonasera. Io volevo possibilmente intervenire su questa vicenda del referendum. Avevo sentito le firme per da raccogliere per il referendum da 500 a 800 mila, secondo la legge Boschi. Io trovo che sia una polemica un po' sterile per il semplice fatto che la soglia delle 500 mila firme è stata fissata nel, diciamo, 50 anni fa, 60 anni fa, quando è stata fatta la Costituzione italiana, dove c'era una popolazione di circa una ventina di milioni di abitanti. Uscivamo dalla guerra, eravamo molto di meno, e anche l'organizzazione per raccogliere queste firme era piuttosto complessa. Oggi siamo quasi 60 milioni, abbiamo avuto referendum su qualsiasi tema, quindi in qualche modo abbiamo indebolito la sacralità di questo istituto, e trovo che diciamo scandalizzarsi perché si passa da 500.000 a 800.000 firme sia un pochino così poco onesto intellettualmente. Secondo me la soglia giusta sarebbe 1 milione di firme, insomma, senza fare polemica. Sì, quindi addirittura aumentarla. Sì, ma è quello che dicevo anche io a Fratoianni, perché in effetti insomma un disincentivo forse ci sta. Ora poi 800.000, 1 milione, questo si può discutere. Anche perché poi la gente non va a votare il referendum. Sì, questo è vero. E poi volevo dire, se è possibile, una cosa brevissima su questa polemica sulle preferenze. Qui c'è anche un discorso di costi, nel senso che noi come cittadini abbiamo sperato tutti nell'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, ci sono stati una serie di scandali, il problema è che oggi i partiti non hanno assolutamente risorse per finanziarsi e per finanziare le campagne elettorali, quindi diciamo delle elezioni con le preferenze hanno un costo elevatissimo. Allora, se noi vogliamo una politica povera, scordiamoci anche le preferenze, perché altrimenti i partiti per finanziarsi sono costretti a ricorrere diciamo ai finanziamenti delle grandi lobby, quindi poi sono dei partiti sempre meno liberi e sempre più che fanno gli interessi dei grandi gruppi e sempre meno quelli dei cittadini, quindi bisogna un pochino mettersi d'accordo, secondo me, e senza essere demagogici e guardare le cose con un po' più di serenità. Va bene, grazie anche a lei, buona serata. Roberto da Teramo. Salve, buonasera. Cade proprio a fagiolo il discorso che ho appena sentito, perché chiamo proprio per il referendum, ma in generale per la crisi economica che c'è in Italia. Il problema delle firme, per esempio, dell'ascoltatore di prima, ma vi rendete conto che in un periodo di crisi in cui ci troviamo stiamo qui a discutere se è normale aumentare le firme per proporre referendum o per fare proposte per leggi? Queste sono cose che si fanno in periodi normali, in periodi in cui un paese sta evolvendo, allora si prendono in considerazione questi elementi demografici. Qui il paese, se non è fallito, come lo ha detto clima che sta fallendo. Se non, se non sta fallendo è già fallito. Qui il problema è come pagare il debito pubblico. Voi dovete spiegarmi che cosa c'entra la riforma del Senato con il problema che l'Italia non ha i soldi per pagare un debito pubblico che fino a 20 anni fa non esisteva. Il problema è questo, perché allora bisogna cambiare l'innumero. Però mi scusi, un collegamento c'è, no? È troppo facile vederlo, è troppo, secondo me, come dire, non si può non vederlo. Il collegamento è questo. Il collegamento è questo: l'efficienza della politica e il fatto che, diciamo, il debito pubblico da chi è stato prodotto? Da questa politica, no? No. E allora se si vuole riformare anche il modo di fare politica, quello è un modo, insomma. Poi uno può dire. Mi scusi se la interrompo. Sì. Purtroppo non ho mai occasione di intervenire. Ma il problema non è questo, il problema non è l'efficienza della politica, il problema è capire se questi politici non sanno quello che fanno e quindi in buona fede fanno cazzate dalla mattina alla sera, mi scusi, oppure se questa gente è in malafede. Secondo me questa gente è in malafede, perché come per esempio la riforma delle banche, la ricapitalizzazione della Banca d'Italia, è perché anche lì non era un problema demografico ma un problema storico, perché il capitale sociale era fermo a 10 milioni di lire, adesso l'abbiamo aumentato. Nel 2015, vabbè, però scusi, se la mettiamo su questo piano, sulla malafede, possiamo andare avanti fino a domani. Grazie, buona serata. Adesso, prima di fermarci per il giornale radio, un altro argomento, perché lo hanno fatto in Germania, approvato 2 giorni fa, la produzione di cannabis, l'autoproduzione di cannabis a scopo terapeutico. Lo stanno facendo anche negli Stati Uniti e in Italia. In Italia bisogna andare in Puglia. Eh sì, perché la notizia dunque è questa. Qualche giorno fa in Germania è stato dato il via libera alla coltivazione di cannabis per i malati cronici, che la possono usare proprio a scopo terapeutico, se la possono produrre a casa loro. Negli Stati Uniti ieri c'era una pagina intera sul Corriere a proposito di la svolta del New York Times, cioè il quotidiano liberal e anche un po' moderato americano, che ha preso posizione a favore addirittura della legalizzazione della cannabis, con alle spalle questo tema dell'utilizzo a scopo terapeutico. In Italia qualche giorno fa in Puglia è stata approvata una legge proprio per questo, per prodursela la cannabis necessaria. Ne parliamo con il sindaco di Racale in provincia di Lecce, Donato Metallo. Buongiorno, buonasera. Buongiorno a voi. Perché ne parliamo con lei, sindaco? Perché da quanto tempo lei fa una battaglia perché questo si possa fare, e lei dice proprio nei territori del suo comune vuol produrre la cannabis? Sì, noi abbiamo iniziato circa 2 anni fa. 2 anni fa venne Lucia Spiri, che adesso è l'attuale presidente dell'associazione La Piantiamo, e mi espose, diciamo, il problema che c'era nell'approvvigionamento al farmaco, perché vi erano delle interruzioni e del costo anche del farmaco. Quanto costa il farmaco importato? In alcune regioni, diciamo, i malati sono più fortunati perché lo passa il servizio sanitario regionale. In altre regioni, dove il servizio sanitario non fa questo, si arriva addirittura anche a 40 euro al grammo. Lei pensi che le terapie si basano di 3-5 grammi, si arriva anche a 5 grammi al giorno, e quindi ci sono dei costi che non sono sopportabili dai malati. E quindi iniziò, diciamo, circa 2 anni fa questa battaglia. Siamo in pochissimi, no? Un piccolo comune del Basso Salento è un gruppo, diciamo, di giovani coraggiosi come Lucia, come William, come Andrea Triscioglio. Cioè lei non è voluto, non è rimasto insensibile alle richieste di queste persone, ma adesso che siete arrivati ad una legge regionale che dopo le, diciamo, previe le autorizzazioni ministeriali necessarie per produrre, perché ricordiamo che in Italia si può produrre canapa ma a basso contenuto di THC, in questo caso per usarla a scopo terapeutico deve essere proprio quella forte, insomma, altrimenti non serve a nulla. Avete festeggiato quando la regione finalmente ha approvato questa legge? Ma noi diciamo abbiamo festeggiato a tappe, no? I vari festeggiamenti che abbiamo fatti, perché la Regione Puglia è intervenuta due volte, prima con l'assessore Gentile, adesso con la proposta di legge che è passata in Consiglio Blasi. Quindi stiamo festeggiando, festeggeremo quando riusciremo finalmente. Non le chiedo come festeggerà, perché è troppo facile. No, loro festeggeranno con la terapia, noi festeggeremo con un bicchiere di buon vino rosso, diciamo, quindi... Un buon vino rosso pugliese, ma lei qualche spinello l'ha fumato in vita sua, in passato? Ma guardi, mi hanno fatto questa domanda diverse volte, no? Anche adesso, mica solo in passato, cioè non è che sia proibito fumare lo spinello, eh? Io, diciamo, su questo non rispondo per un motivo semplice. Perché al di là se io l'abbia fumata o meno, non è questo di cui si parla. Questa è terapia, sì, è un farmaco. Sì, è un'altra cosa, però, è un'altra cosa. Io però, dico sempre che non bisogna confondere le due battaglie che facciamo, no? Però tra bisogna, cannabis terapeutica. Bisogna poi vedere anche dove viene prodotta e anche dove viene eventualmente smerciata. Perché noi abbiamo parlato con un produttore, per esempio, tempo fa di canapa in Calabria, che diceva, beh sì, un controllo al campo dove produco la canapa lo devo fare, perché sennò rischia che, certo, che mi sparisce sotto il naso. Il progetto, diciamo, che vorremmo portare avanti noi vede la Regione Puglia, vede le università, le ASL. È una cosa seria, perché in Italia si produce già in un posto solo, che credo che sia Rovigo, dove c'è un centro del CNR. Sì, viene prodotto a Rovigo, mi sembra, per ricerca, ma poi viene successivamente. Noi vorremmo, diciamo, avere tutte le autorizzazioni e tutti i controlli, anzi benvenuti. Non lo sentiamo più, non lo sentiamo più, Donato Metallo. Oh sì, sentiamo un po'. Ci sente? No, è caduta la linea. Va bene. Allora, siamo quasi alla pausa del giornale radio. L'intervista era pressoché finita. Quanto tempo abbiamo ancora? Possiamo andare avanti per sentire un ascoltatore o devo dare la linea al giornale radio? Allora, chiamiamo in ballo ancora un ascoltatore. Danilo da Massa, buonasera. Buonasera. Le volevo dire, per quanto riguarda la legge elettorale, la riforma elettorale, la riforma costituzionale, diciamo. Ma siamo sicuri che queste persone siano in grado di fare delle riforme costituzionali? A me mi sembra di no, perché poi in fin dei conti abbiamo un immobilismo politico che va avanti da 30 anni, abbiamo visto come ha ridotto l'Italia e li facciamo fare anche le riforme costituzionali. Però c'è stato nel frattempo un Parlamento nuovo eletto, tra l'altro con gente nuova, molti non si sono ricandidati, molti dei vecchi della politica, ci sono regole all'interno dei partiti per non rieleggere più di due volte un secondo, no, un terzo mandato, c'è il Movimento 5 Stelle che è una pattuglia ampia di neofiti assoluti della politica, neofiti assoluti. Neofiti assoluti. Il Movimento 5 Stelle è contrario, però contrario. Sono i nuovi che sono contrari. Sì. Perché poi intorno ai vedo. Sì, che però non si può ridurre tutto nuovi. Ai nuovi che sono contrari, ai vecchi che sono favorevoli. Se lei le va bene che la riforma costituzionale venga fatta intanto da condannati. Sì. Poi diciamo da gente che la Costituzione mi sembra che se la sia già mangiata, perché se andiamo a vedere anche la sentenza della Corte Costituzionale sia sul vecchio modello elettorale. Pronto? Sì, la sentiamo. No, la stavamo ascoltando. I finanziamenti ai partiti che continuano a prendere e sono stati dichiarati anticostituzionali, sia sul vecchio premio di maggioranza. Cioè, ma di cosa parliamo? Poi, la deriva democratica è presto spiegata. 900 nati, che per me 900 nominati vuol dire come ora 750 saranno forse, 750 chiavi per me sono i nominati, che devono solo il tutta una persona, e l'italiano che sceglie tra 5-6 persone, 1000 magari che vanno in Parlamento. Ma quindi scusi, non c'è speranza, secondo lei proprio non c'è speranza? Le riforme fatte meglio. Ma fatte da chi? Fatte già da chi, eliminare però. i nominati via subito. Io voglio eleggere il mio rappresentante in Parlamento. Sì, sì, ma infatti questa è una richiesta che c'è, sicuramente perché sono veri quei sondaggi. Sembra che la maggioranza non abbia visto, perché forse gli fa più comodo proprio i nominati, come li hanno fatto comodo fino ad oggi. Sentirsi con Papa senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi. Si può fare, si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua, 19:15 minuti. Buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Tra poco cominceremo, riprenderemo a sentire le vostre telefonate. Potete anche scriverci i vostri sms al 349 238 6666, come fa un ascoltatore che non si firma e che, a proposito di Donato Metallo, il sindaco di Racale in provincia di Lecce, a cui ho chiesto se lui uno spinello se l'era mai fumato e ha detto non rispondo. L'ascoltatore commenta laconico: abbiamo capito, ha fumato. Ed è quello che abbiamo pensato un po' tutti. Vabbè, ma non c'è niente di male, perché fumare lo spinello non è vietato, basta stare attenti a non mettersi al volante subito dopo guidare la macchina, perché è pericoloso, così come è pericoloso quando uno ha bevuto un bicchiere di vino o due anche e si mette a guidare la macchina. Quindi questo è un po' l'ordine di idee. Col sindaco però pugliese abbiamo parlato del fatto che in Puglia da qualche giorno è passata una legge che consente la produzione di cannabis per utilizzo a scopo terapeutico, l'autoproduzione. E quindi poi vedremo se si supereranno tutte le varie autorizzazioni ministeriali, se si comincerà a produrre cannabis proprio in questa regione italiana, la Puglia. Ricordando che in Germania una legge analoga è stata approvata qualche giorno fa e in America anche, adesso non ricordo più le percentuali, ma nel 35% degli stati e della popolazione americana è consentita questa cosa qua. Rispolveratina alla copertina. Sì, sì, sì. No, no, no. Sì, sì, sì. No, no, no. Allora, poniamo in votazione l'1.28 nella parte separata. Non si può, non si può. Allora, sospendo l'aula. Sospendo la seduta. La seduta è sospesa. Così mestamente il presidente del Senato Grasso oggi pomeriggio ha preso atto del fatto che non si riusciva a votare l'emendamento sul Senato elettivo, probabilmente per l'opposizione, i fischi del Movimento 5 Stelle, che temeva che questo emendamento di Sell, una volta che fosse bocciato, avrebbe fatto saltare tutti quegli altri a catena. Io ho capito questo oggi pomeriggio, ma poi ci sarà tempo per interpretare, ammesso che sia utile e interessante. Allora, vediamo come sintetizzano la giornata a questo punto i siti. Il Corriere scrive: riforme, salta tutto, si riparte da zero. Repubblica: Senato, caos in aula, mediazione fallita. La maggioranza però regge al primo voto segreto. Sentiamo cosa aveva detto stamattina il ministro Boschi. Il governo non può in qualche modo sottostare ad un ricatto, per così dire, ostruzionista. Voglio avere una villa con parco, schivare l'infarto, un nome per la mia elezione, avere Rolex d'oro come... Deve esserci, non dico uno spirito costituente, ma uno spirito di disponibilità da parte di tutti, soprattutto da parte del governo. Perché io sono stanco di lavorare, di tessere, come si suol dire, la tela di giorno, di trovarmi d'accordo con la correlatrice, con esponenti del governo, con i tecnici, con l'80% delle forze politiche rispetto a una determinata modifica, e poi si arriva: no, il governo non vuole. Eh no, non funziona così. Calderoli, il correlatore della riforma, che evoca lo spirito costituente. Chissà se si riferiva anche al senatore D'Anna di Gal. Sentitelo. Noi in quest'aula desideriamo il Senato elettivo. Se c'è questa disponibilità da parte del governo, noi andiamo avanti. Altrimenti portiamo l'ombrellone qua e ci facciamo tutta l'estate, anche perché, signor Ministro, il problema non è il nostro, il problema è del presidente Renzi, che finalmente deve cominciare a lavorare anche in agosto. Beh, che Renzi non sia sempre in attività è difficile sostenerlo, caro D'Anna di Gal, che vuole andare avanti tutta l'estate, avete sentito, vabbè, insomma... Che volete fare? Così, questo è il dibattito oggi in Senato per quanto riguarda il tema della riforma. C'è Paolo Becchi, ex semi ideologo del Movimento 5 Stelle, che adesso lo sentiremo, qualche giorno fa sul blog del Fatto Quotidiano che lui tiene, insomma, critica l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle e dice: stanno sbagliando a fare l'opposizione, primo perché hanno fatto una trattativa fallimentare con il Partito Democratico che non ha prodotto nulla, secondo perché dopo aver accusato Napolitano di diverse nefandezze sono andati a piangere da lui come garante della Costituzione per chiedere, protestare contro la tagliola imposta dal governo. Sentiamo Becchi. Un Senato non elettivo in una situazione come l'attuale significa praticamente, è come mettere un cesso in una sala da pranzo. E perché, non e perché in Francia, una riforma, e perché in Francia non c'è riforma. Un Senato elettivo? Il Senato non elettivo è come il cesso, è come mettere il cesso in sala da pranzo. Questa, diciamo, la sintesi politica oggi di Paolo Becchi, non so dove fosse intervistato in televisione. C'è spazio anche per sentire un paio di battute per quanto riguarda il caso Tavecchio. Cominciamo con l'ex ministro Chiang. Dobbiamo cominciare un attimino a renderci conto che una persona come lui, che si candida a dirigere un mondo così importante, deve anche misurare le proprie parole. Allora, pronunciare quelle parole, che sono chiaramente parole fuori luogo e parole secondo me razziste, devono essere comunque sanzionati, e lui, secondo, per quanto mi riguarda, deve fare anche un passo indietro. Il direttore della Padania, Lussana. Credo che sia disumano non tanto riferimento ai mangiabanane, perché potremmo dire che Tavecchio, da buon comasco, un mangia polenta uncia, e vabbè, ci facciamo tutti una risata. Intanto stanno uscendo sul blog di Beppe Grillo i risultati delle consultazioni tra gli iscritti e gli aderenti al movimento su fatto se andare o no in piazza, se fare o no l'Aventino in Parlamento. Adesso ci diamo un'occhiata, magari tra poco, e vi comunichiamo questi risultati. Intanto sentiamo un pezzettino di Grillo. Se questa gente comincia a prenderci in giro, perché ci stanno prendendo in giro, noi vogliamo, volto, allora, i senatori, la riforma del Senato, la vogliamo elettiva o no? Sì o no? Se non è elettiva, noi faremo una guerriglia democratica, siamo in guerra, l'abbiamo detto, siamo in guerra. Beach on the beach, sotto solo la pelle bruci, sotto la luna ancora di più. Fuori flex Superman, senza fare love non si può stare. Oh baby, beach on the beach, femmine e uomini vanno a caccia, gli occhi neri e gli occhi blu. E vediamo un po' come rimbalzano sotto gli ombrelloni sulle spiagge italiane, cioè nei luoghi di vacanza, questa rubrica, un po' di spazio anche all'alleggerimento, i temi di cui stiamo parlando noi, insomma, la politica, le riforme, quello che volete voi, il caso Tavecchio, gli articoli, i titoli dei giornali o dei telegiornali. Oggi in questa rubrica diamo spazio a una persona particolare, diciamo un ciclista, uno che si diletta ad andare in bicicletta, si porta dietro un teatrino di marionette, sta girando l'Italia da diverse settimane. Lui è Luciano Strasio. Buonasera. Buonasera a lei. Eccoci qua. Allora, intanto, Strasio, dove si trova, o se vogliamo darci il tu, dove ti trovi, Luciano? Allora, sono arrivato questa mattina qui a Carloforte. In Sardegna? Sì, in Sardegna. Diciamo Sardegna, anche se è un'isola un po' particolare. Sei partito il 20 giugno da Torino, correggimi se sbaglio, poi sì, Genova, esatto. Palermo, Salerno, Napoli, ora la Sardegna, e poi ci saranno altre tappe, anche uno sconfinamento all'estero, in Corsica. Sì, esatto, quest'anno giro delle isole. Luciano, per fare che cosa? Per allietare le serate dei bambini con un teatro di marionette che ti porti attaccato sulla bicicletta. È così. Esatto, sì, due teatri di marionette in realtà. A due addirittura? Uno attaccato davanti e uno attaccato dietro. Sono due scatoloni, ma io intendo gli spettacoli. Ho visto le foto, se avete la possibilità di andare su internet a curiosare Luciano Strasio, trovate tutto, Circo Luce, e ho visto che talmente l'ingombro del teatro di marionette che non hai il bagaglio. Ma come fai ad andare in giro senza bagaglio? È il terzo anno che viaggio in questo modo, sono riuscito a ridurlo al minimo. Cioè poi trovi ospitalità dove vai, ti accolgono, sì, ti offrono la cena, come funziona? Sì, mi offrono in realtà tutto di quello che ho bisogno. In Sicilia non sono riuscito a dormire fuori una sola notte su 20 giorni di viaggio, stessa cosa in campagna. Cioè praticamente ti rapivano, ti sequestravano, vieni a casa mia col teatrino. Sì. A proposito, sono riuscito a star solo un momento. Se passi da Milano me lo dici che ti porto mia figlia che ha 3 anni, Viola. Ah beh, Milano è molto vicina, è facile che ci passerò. Molto vicina da cosa? A Torino, io arrivo da Torino. Ah ok, quando sarai diciamo sulla via del rientro magari puoi fare anche una tappa qui a Milano a trovarci. Come funziona questo teatro di marionette? Sei tu che animi le marionette per i bambini? Sì, io muovo le marionette e racconto la storia all'interno di una scatola. In realtà è un teatro un po' particolare perché per vedere gli spettacoli bisogna guardare all'interno dei fori che traforano queste due scatole. E quanti fori ci sono? Cioè quanto pubblico puoi avere? Lo spettacolo nuovo è per 6 spettatori e quello vecchio inizialmente era per 3 spettatori, poi aggiunto fantastico. Un quarto buco. Cioè, pensate che questo ragazzo si muove in bicicletta facendo una fatica terribile, fa questi spettacoli per 6 spettatori, 6 bambini. Cioè, uno dice lo faccio per 1000 persone, ne vale la pena. No, per 6, quindi è proprio una cosa super speciale. Sì, sì, non è tanto il numero che mi interessa, è il tipo di spettacolo, è il tipo di risposta che vi danno i bambini. E qual è questa risposta che ti arriva? Ah, è fantastica, sono sempre entusiasti. Saranno entusiasti, di che età sono i bambini? Tutte le età, immagino. Tutte le età, anche gli adulti. Quando riescono a prendere posizione su uno dei buchi, perché i bambini spingono molto, anche gli adulti sono. Ma poi che succede dopo lo spettacolo? Poi ti prendono per mano, ti portano a casa, vieni a cena con noi? Più o meno sì. Adesso qualche tappa sono riuscita ad organizzarla in anticipo e in realtà la maggior parte vengono fuori per strada. Adesso per esempio sentiamo delle voci intorno, sono sì, quelli sono che ti hanno sequestrato stasera. Tra poco inizierò a fare spettacolo. Ah ok, in che piazza ti trovi? Sono diciamolo. Sono sequestrato in anticipo, sono in Piazza della Repubblica. Piazza della Repubblica a Carloforte. Sì, dalle 9:30 alle 11:30. Quante repliche riesci a fare in una serata? Ne faccio una ogni 10 minuti, su 2 ore sono una ventina, diciamo. Quindi alla fine sarai anche bello stanco, cioè dopo aver pedalato tutto il giorno, poi 2 ore di repliche per i bambini in cui praticamente sei tu che animi tutte le marionette. Sì, in realtà la parte di spettacolo è quella che mi rigenera dal resto della giornata. Immagino. Come parlano le tue marionette? Vuoi farci sentire qualcosa? Si può? Questa è la storia di Giovanin Lavigna, che è un po' Calpianz e un po' Calghigna. C'è un incipit in piemontese che i bambini apprezzano comunque. E poi prosegue però in italiano? Sì, assolutamente. Senti, insomma, ma tu, diciamo, il bagaglio abbiamo detto ridotto al minimo, le spese probabilmente ridotte al minimo anche perché viaggiando in bicicletta. Grazie all'ospitalità anche. L'ospitalità, quindi l'autocombustione, diciamo, che ti guida, che qualche treno credo che lo avrai preso pagando il biglietto. No, in realtà no. Ah no? No, l'anno scorso avevo una bici molto piccola e la gente pensava viaggiassi in treno, viaggiassi in pullman. Quest'anno l'ho fatta abbastanza grande, non entrare dalle porte, così tolgo il dubbio a tutti gli spettatori. Ah, quindi hai fatto tutto in bicicletta, un eroe veramente. Assolutamente, sì. Tra l'altro diciamo una cosa, perché uno si potrebbe anche domandare, qualcuno all'ascolto dice, ma Luciano Strasio nella vita normale cosa fa? Nella vita normale sono falegname, questa ecco. È una passione che riesco a permettermi soltanto d'estate. Ma è vero che lavori in una come falegname, ma lavori anche in una officina che produce biciclette tutte una diversa dall'altra? È una casa del quartiere del comune di Torino, sono questi spazi dedicati alla socialità, ci sono falegnameria, ciclofficina, sartoria, carpenteria, lavorazione della pelle e altre 4-5 laboratori. Tutti quanti con la particolarità di essere aperti al pubblico, chiunque può venire da noi e farsi insegnare a fare quello che vuole fare. Ma si riesce a vivere con questo, Luciano? A sopravvivere, ma è talmente bello che basta quello. A te piace. Senti, non so, io ho detto da questa rubrica è per vedere un po' come rimbalzano anche i titoli dei telegiornali, le pagine dei giornali tra la gente, cioè si parla del Senato, delle riforme, oppure non gliene frega niente a nessuno, si parla solo del tempo, del meteo. per esempio? No, non si parla del Senato, ma qui in Sardegna ho sentito molto parlare di crisi. Crisi, di nuova emigrazione, di debiti, di aziende che chiudono. Cavolo, sì. E di un rancore antico verso il Regno Sabaudo, che è una cosa che mi ha stupito molto. Da piemontese è la prima cosa che mi si affibbia dopo che dico da dove arrivo. Però poi passa subito, credo, no? È un popolo molto accogliente quello sardo. Anche quello sardo. Sempre belle esperienze. Luciano, in bocca al lupo, grazie per essere stato con noi. Se vuoi possiamo risentirci, magari ci racconti le impressioni, che ne so, di un'altra regione. Qual è un'altra regione italiana dove andrai? Andrò ancora, no, finisco il giro della Sardegna, poi sarò il giro della Corsica e a metà settembre ritornerò a Genova. In Liguria. E da Genova fino a Torino, sì. Va bene, poi possiamo risentirci magari più in là, perché no? Fino a metà settembre sarò in giro. Buona serata, buoni spettacoli, grazie anche grazie per quello molte. Che fai a nome di tutti i bambini. Grazie a voi, buona serata. Si può fare l'attualità anche d'estate. Un po' di sms al 349-238-6666, per esempio c'è chi invita Luciano, il nostro Luciano Stasio che abbiamo appena sentito, il Circo Luce, vieni in Toscana a Lamporecchio, ti ospito per mia figlia e i miei nipoti, dice Giordano, che lascia anche il numero di telefono, non si sa mai, no? Ci fosse un equivoco. Poi a proposito di Danna, sembra bombolo quando parla, abbiamo fatto sentire la voce di Danna di Gal in Senato e c'è un ascoltatore che dice sembra bombolo, in effetti. Va bene, poi a proposito dello spinello, oggi non è vietato fumare lo spinello, ma all'epoca di quando il sindaco Donato Metallo lo fumò, forse era vietato, e via di questo passo. Adesso ascoltatori, riprendiamo con Fulvio che ci chiama da Milano intanto, buonasera. Sì, buonasera. Senta, volevo fare un intervento proprio a questo riguardo all'uso degli spinelli e alla propaganda che in questa fascia oraria lei e i suoi predecessori ne fanno. Mi viene già la pelle l'orticaria, la propaganda. Ma quale propaganda? Perché no, propaganda? Perché il messaggio che si recepisce è che... Guardi, io ho fatto un'intervista al sindaco di una città pugliese si è proposta di produrre la cannabis a scopo terapeutico perché ha degli amici che sono malati di SLA. Questa è una legge regionale pugliese, in Germania è legge nazionale e quindi non c'è nessuna propaganda per lo spinello. Sì, però il messaggio che si recepisce anche durante le trasmissioni della Zanzara, ma anche da altre radio private, così verso in tutte le fasce orarie, sia indirizzate ai giovani che ai meno giovani, è quello che fumare lo spinello non fa male, che si può fare, ma vai tranquillamente. Però io le assicuro che a Milano, nell'area intorno a Milano, ci sono i ragazzini delle scuole medie, quelli che io ho 52 anni, quelli che 30 anni fa, 40 anni fa fumavano le sigarette all'intervallo in seconda media, adesso fumano gli spinelli, e che non sono più gli spinelli di 30 anni fa, sono spinelli che fanno malissimo, che sono 20 volte. Però allora scusi, vorrei sapere se lei, che ha una figlia, che ha detto prima una figlia Viola di 3 anni, cosa ne penserebbe se sua figlia le tornasse a casa rimbambita perché si è scannata di spinelli tutto il pomeriggio con i suoi amici a 12 anni. Tutto, lei sarebbe contento? Tutto può essere pericoloso, tutto può far male, compreso l'alcol. Il salame, certo. Il salame, la noce moscata uccide, l'alcol può uccidere. E quindi è questa la questione che dobbiamo imparare a dire. Che la cannabis non è un veleno culturale che i ragazzi recepiscono come ma l'ha detto Radio DJ, l'ha detto Radio 24, lo dicono tutti, lo dice anche Veronesi, ma chi se ne frega, fumiamo gli spinelli. E lei, le assicuro che il 90% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni si fanno di canne. Ma non è meglio provare a parlare con questi ragazzi e spiegargli, se uno ha un figlio, insomma, fare il genitore è anche questo, no? Non è proibire e basta, ma è parlare e spiegare. No. È spiegare che le cose si fanno con equilibrio, si può provare a fumare uno spinello, non muore nessuno, così come si può bere un bicchiere di vino. Certo. Non lo consiglierei forse, perché fumare in generale è un atto contro natura. Io ho smesso, per esempio, ognuno ha la sua storia. Io credo che ci voglia sicuramente libertà e conoscenza delle cose. Non credo che demonizzare la cannabis sia una cosa molto sensata al giorno d'oggi, però non voglio neanche su questo tema fare troppa, come dice lei, propaganda, perché non era questo. Tra l'altro volevamo parlare di tutt'altro, di autoproduzione per scopo terapeutico. Questa è una cosa autorizzata da medici, ci sono dei protocolli, l'argomento era quello. Poi se lei ci ha letto dell'altro, Fulvio, può darsi che abbia sbagliato io, eh? Le anfitamine che sono negli antidepressivi che prendono gli anziani, ma va benissimo perché ci sta, è giusto che siano così, però il messaggio corretto che dai da mandare alle nuove generazioni è di sapere che certo uno spinello te lo puoi fare che non succede niente. Va bene, lo dia lei, me lo dia lei, me lo dia lei un messaggio, ecco, da dare ai giovani che stanno ascoltando, in 30 secondi però. In 30 secondi, fumare gli spinelli è pericoloso perché vi fa morire le cellule del cervello, e se il 50% degli italiani sono destinati sopra i 60 anni ad avere l'Alzheimer, quelli che fumano lo spinello ce l'avranno al 100%. Questa è una statistica sua però, eh? Questa è una statistica mia. Allora qui la fermo qua, Fulvio, la fermo qua, perché se mi dà la statistica sua è tutto finito, come direbbero i nostri amici che si divertono su Twitter. Tutto finito. Giampaolo da Milano. Buonasera. Buonasera. Ma questa conversazione mi permette di fare una digressione da quello che stavo per dire. Sì, effettivamente c'è troppa enfasi sul discorso delle droghe, del fumo, eccetera, eccetera. Io ho 77 anni, non ho mai fumato una droga in vita mia, fumo qualche sigaretta, bevo qualche goccio di vino, faccio l'imprenditore e ancora oggi vado in giro per i deserti a montare i miei impianti, a bordonare. Cavolo, eccetera, dove? Nei deserti dove, Giampaolo? Per esempio in Abu Dhabi, per esempio in Dubai, anzi, diciamo. E che impianti va a montare? Mi scusi se glielo chiedo. Vado a montare degli impianti che servono per grosse aziende chimiche. Ho un'azienda mia che esporta, e vedi caso, il 100% oltre l'Europa, e questo è qui il ritorno. Cioè lei esporta tutto, in Italia non vende nulla? Nulla, zero. Mi guardo bene dal vedere un paese, perché è un paese disfatto, è un paese che se lei vende qualcosa prima di prendere i suoi soldi indietro deve lottare come un cane, perché qui la gente ormai non ha più nessuna etica nel business, qui si arraffa quello che si può e poi si vede. Il discorso del mercato italiano è un mercato devastato, assolutamente devastante, quindi io esporto dal Golfo fino all'Australia, ma mi guardo bene, ma anche l'Europa. Ma cosa sono, prodotti con brevetti italiani? No, non sono brevetti, non necessariamente, sono solo impianti. La ragione che ho chiamato è che io, con un'esportazione di questo genere, con il fatturato in crescita, ho le banche che mi restringono il credito. E quindi tutti quei bei discorsi sulla politica che gli italiani amano fare perché sono guelfi e ghibellini, sono rimasti ai secoli in cui si discuteva per qualsiasi cosa, perché discutono come se fossero in chiesa o al partito, cosa che io considero assolutamente assurdo, non si fanno assolutamente nessun carico di problemi veri, che sono i problemi di sopravvivenza delle aziende, i problemi di sopravvivenza della gente. Cioè lei dice, in Italia si fa molto parlare di grandi argomenti, ma non ci si affronta. Ma di grandi argomenti, per me la legge elettorale e il Senato non sono dei grandi argomenti, sono degli argomenti civetta per spostare l'interesse, che invece è molto più intenso, sul fatto di come si sopravvive. Io lavoro a 45 famiglie e me lo sento come un peso morale gravissimo. Se dovessi saltare per aria, non so cosa farei di me stesso, anche essendo arrivato a 78 anni. Sì. Perché questo è il vero discorso. Il resto sono chiacchiere da foto chic, che sono quelli che io odio a morte, che ha distrutto l'Italia, chiacchiere da intellettuali balordi. No, è vero che c'è bisogno di occuparsi di cose concrete. Guarda, io sono d'accordissimo con lei, tant'è vero che con questo programma che facciamo nel weekend, adesso siamo momentaneamente ospiti nella Fascia della Zanzara, si può fare, proprio siamo innamorati di gente che propone soluzioni concrete per i problemi in generale dell'Italia, degli italiani, cose piccole e cose grandi, perché credo che siano anche di interesse queste cose qua. Però che dire, non è che non si può non parlare anche della legge elettorale, perché poi con quella si vota, da lì nasce tutto, no? Lei è troppo intelligente per dirmi che non conta nulla, Giampaolo. Lei mi sente? La sento, sente perfettamente, lei? Sì. Bene. Come non si può parlare fino all'infinito delle coppie omosessuali, delle coppie eterosessuali? Ma signori, siamo 60 milioni di persone che devono sopravvivere. Abbiamo un paese che è fatto di chiacchiere e distintivo, perché questo è il discorso. Ma quelle però sono anche vite concrete delle persone, eh? Cioè, ci passa la differenza che c'è tra, come dire, tra avere, avere una cosa concreta e non averla. Voglio dire, cioè, la cosa concreta per una minoranza di gente che sta facendo minoranza. Un piasso terrificante. È la che dobbiamo fare, dobbiamo sotterrarli sottoterra la minoranza. No, dobbiamo dare priorità ai problemi. Le priorità ai problemi ce l'hanno con i numeri. In Italia non si è mai studiata aritmetica perché fa schifo, la matematica fa schifo, la fisica fa schifo, la statica fa schifo. Non si parla, faccio il giornalista, faccio qui, faccio là. La gente non ha capito che per sopravvivere con 6 miliardi sono di d'accordo con lei, bisogna parlare di cose che sono pragmatiche, chiare e materiali, per il caso, materialissime. Ma lei ha dei figli, Giampaolo? Lei ha dei figli? Sì che ce l'ho, ho due figli e 7 nipoti. E cosa hanno studiato i suoi figli? I miei figli stanno studiando intensamente, i miei nipoti lo stesso, con ottimi successi. Cosa? Perché sono tenuti sotto, ma hanno finito il liceo, i più grandi, no? Hanno finito il liceo classico più grande. No, ma dico i figli, non i nipoti, i figli, se posso chiedere. I miei figli hanno studiato ingegneria, le mie figlie hanno fatto ingegneria. Due figlie hanno fatto ingegneria? Sì. Quindi lei è riuscito a far passare alle sue figlie questo senso della concretezza, diciamo, della pragmaticità. Sicuramente, perché ho fatto delle lotte per la scuola, che non le dico, per avere la possibilità, in un paese che ignora completamente la pratica, il pragmatismo, la natura, la fisica è ignorata completamente. Noi parliamo, chiacchieriamo, come le odio le assemblee che chiacchierano, io come le odio. Per me è una devastazione questa qui. Ed è stato, se si potessero eliminare, non so, questo. I convegni in Italia, no? Metà dei convegni che sono inutili, io sono d'accordo con lei, probabilmente, forse addirittura il PIL ne trarrebbe beneficio. Ah, lo sono convintissimo, ma abbiamo dato, dal 68 in poi abbiamo dato l'educazione ai nostri figli. Io ho selezionato le scuole pubbliche, mi sono messo fuori delle scuole per andare quelle che erano più difficili, quelle che avevano gli insegnanti più cattivi, gli insegnanti di, per intenderci, quei bei lucri di insegnanti forti che venivano da, come si chiama, dall'estrema sinistra, dei partiti che sono quelli che davano i voti più bassi, che scassavano la gente. Io ho sempre voluto questo per i miei figli, una disciplina fortissima e una scuola fortissima, una scuola determinante, una scuola solida, non le chiacchiere, non i corsi di laurea che hanno inventato adesso che fanno ridere i polli, no? Cose infernali senza senso. Io ho sempre guardato la praticità, sempre. Giampaolo, lei per noi è una specie di esempio, una guida, almeno per me personalmente. No, io sono d'accordo con quasi tutto quello che ha detto, però non lo so, forse siamo io e lei a pensarla così. Vuole aggiungere qualcosa? Io la farei parlare anche tutta la sera, però sono già 10 minuti. Io direi semplicemente che se gli italiani non cambiano mentalità, se i genitori non si mettono a parlare di disciplina, la disciplina è una cosa serissima, e di cose che, e di progetti che si devono fare per i figli, per i nipoti, e se invece di chiacchierare a vuoto da bar, da partiti, poi i partiti hanno rovinato l'Italia, sono il cancro dell'Italia. No, ma non mi vada anche lei sui partiti, perché quello l'hanno già detto tutti fino ad ora, e il suo era un intervento del tutto originale. Giampaolo, ci richiami prossimamente, perché io la devo risentire. Grazie. Per forza, buona serata. Grazie. Buonasera. Lorenzo da Udine. Buonasera Alessio, buonasera radioascoltatori. Prego. Guarda, volevo intervenire sul discorso della cannabis, però dopo aver sentito l'ascoltatore precedente, permettimi solo i complimenti, perché lo dico in questo caso da ragazzo, da giovane, sono 26 anni e non da genitore, complimenti, e sottoscrivo ogni parola dell'ascoltatore precedente. Cioè sui pericoli della cannabis? No, assolutamente, sull'ultimo intervento. Ah, con l'ultimo, insomma, sì, avevo capito che volevi parlare della cannabis. Richiamo la concretezza, sì. Richiamo la disciplina, complimenti, lo sottoscrivo in questo caso da figlio e non da genitore. Sai qual è il problema, Lorenzo? È farlo, perché Giampaolo probabilmente è riuscito a farlo, si sente dall'energia, dal tono, che probabilmente a casa sua rigano dritti, e questo è un vantaggio per i suoi figli, che probabilmente non avranno problemi neanche nel mondo del lavoro, eccetera eccetera. Ma il problema è passare dalle parole ai fatti, e però, sì, che dire, almeno le parole sono quelle giuste. E sì, portando anche una piccola esperienza, voglio dire, è inutile che continuiamo a parlare di crisi, la neghiamo, eccetera. È vero, c'è un grande problema, però io ho 26 anni, il primo contratto a tempo, ho studiato economia, il primo contratto di lavoro a tempo determinato, comunque l'ho fermato a 23 anni, adesso l'ho cambiato e comunque sto lavorando ancora a tempo indeterminato. Voglio dire, c'è la crisi è un problema, probabilmente sono stato fortunato, però stare a prendersi addosso, chiacchierare, come appunto va di moda in Italia, secondo me porta poco, insomma, è un richiamo alla concretezza come quello che ha fatto appunto Giampaolo, mi Vabbè, sembra. Ma lei voleva commentare solo Giampaolo, voleva dire anche qualcos'altro? Molto meno seriamente, vuol dire il discorso della cannabis, mi ha fatto sorridere questo mitizzare questa cannabis, voglio dire, presentarla come un grande pericolo. Io non sono fumatore e ho provato, chiaramente come molti ragazzi, semplicemente voglio dare un consiglio a chi, come l'ascoltatore precedente, la vede come un vero pericolo. Con discorsi di questo tipo e con un atteggiamento così drastico non fa altro che caricare di fascino quella che poi in realtà è una sciocchezza come un'altra, voglio dire. La cannabis fa forse un po' male, ma non, sicuramente non è questa cosa pericolosa che descriveva la Ma non peggio di altre cose che ci sono in commercio, in circolazione, bisogna usarla con buon senso, come tutto. Va bene. Assolutamente. Grazie Lorenzo, buona serata. Buona serata, arrivederci. Allora, andiamo con Derry che ci chiama da Salerno, buonasera. Buonasera. Sottoscrivo anche io tutte le parole di Giampaolo. Vedi, Giampaolo sta facendo tendenza alla grande. Però quello che voglio dire è l'intervento di questi sciocchi dei cosiddetti cittadini informati del Movimento 5 Stelle, del quale anche io ho votato il Movimento 5 Stelle. Sono brasiliani che vivono in Italia da tanto tempo. Visto Lula cambiare il Brasile. Renzi sta provando a farlo. Il problema dell'abolizione del Senato non elettivo, oppure elettivo indirettamente, è che il Senato, quelli stupidi, devono capire che viene svuotato tutti i poteri di due letture del bicameralismo perfetto. Viene svuotato di quel potere. Quindi non ha bisogno di un'elezione diretta. Snellisce il Parlamento e può camminare e fare riforma che questo Stato, questa nazione ne ha bisogno. Fino a fuori quella palude del bicameralismo perfetto è impossibile. Non si allontani però dal telefono, Derry, perché sembra che nel suo discorso si stia perdendo nei fili, nell'etere. Pronto? Io credo che il Senato deve essere fatto come vuole Renzi. Fallo quello schifo di Senato di una volta per sempre, non elettivo, con meno potere, senza due letture, in modo che questo paese possa fare le riforme di cui ha bisogno. Va bene, grazie per aver espresso il suo pensiero anche alla fine in poche parole, in sintesi. Benissimo. Abbiamo la musichetta perché c'è una pausa, no? Andiamo avanti tranquillamente con gli ascoltatori. Ugo da Salerno, buonasera. Buonasera, io volevo richiamare l'ottimo conduttore della bellissima trasmissione sul fatto che ha detto prima, perché magari con leggerezza, non so, dire vabbè anche bere un bicchiere di vino fa male. Io capisco che cosa c'è alla base del suo discorso, che giustamente si guarda il grosso problema dell'alcolismo, però dire con leggerezza è come bere un bicchiere di vino, mi sembra un attimino una forzatura. Lei cosa ne pensa? Cioè, facciamo un paragone, no? Un tiro di uno spinello e un bicchiere di vino, non dico uno spinello intero che ti può anche stendere, ma un tiro e un bicchiere di vino. Prendiamo un adolescente, non è lo stesso effetto? Il messaggio, ecco, è quello che volevo dire, un attimino, il problema è il messaggio che o un bicchiere passando. Di un alcolico, insomma. Non è un problema del bicchiere. Ma qual è il messaggio, scusa? Il messaggio che sta passando è che tutto può far male, basta farlo come anche un bicchiere d'acqua, anche bere 5 litri. Perché non è vero? No, è una enorme fesseria, perché lei sa benissimo che ciò che resta poi di aver bevuto 5 litri d'acqua può essere un grosso mal di pancia che poi va via. Ma quello che resta invece da un bambino che dai 14 anni incomincia a fumare spinelli, cosa resta? Magari arriva ai 24-25 anni, io le assicuro, cosa resta? Che sono completamente a parte che lei mi sta dicendo bambini. A parte, ma questa sono diversi, ma a parte che uno che inizia a 14 anni e smette a 24, cioè fumando tutti i giorni, ma qui stiamo parlando di un caso patologico, mi scusi Ugo, è come uno che comincia a bere a 14 anni tutti i giorni, arriva a 25 è un alcolizzato, e te credo, ma è proprio quello che dico io, bisogna farlo si può fare con moderazione. Bisognerebbe non farlo, è quello che voglio uno dire. Uno può fare quello che gli pare, dovrebbe passare questo messaggio. Cercate di non farlo, perché non è vero che... Ma non fare cosa? Non bere il whisky? L'alcol che è in vendita nei supermercati? Di farsi gli spinelli. Ma perché fa più male uno spinello di una bottiglia di whisky? Ma veramente vuol dire? Ma lei sta scherzando, lei veramente non lo so che ma lei forse è un appassionato della bottiglia, quindi ce l'ha con quelli che fumano. Guardi, ecco, questa è la risposta più assurda e più coglione che mi poteva dare, perché non esiste una risposta del genere. Cosa vuol dire? Io sto cercando ma di perché la stessa perché lo stesso messaggio. No, io non faccio passare nessun messaggio. Scusi, le ho chiesto, Ugo un attimo, scusi, io le ho chiesto questo perché la stessa accanimento che lei ci mette sul fumare uno spinello, perché non ce lo mette sul bersi una bottiglia di whisky? Questo le sto domandando. Beh, questo è ovvio, ma è chiaro, stiamo parlando dello spinello, mi scusi, eh. E poi vogliamo parlare di altre cose, parliamo di altre cose. Anche lei richiama spesso i radioascoltatori e dice, vabbè, cerchiamoci di attenere all'argomento. Beh, se l'argomento è quello di dire uno spinello può non far male, d'accordo, se passa il messaggio per cui vabbè, o ti fai uno spinello o ti fai un bicchiere di vino, magari è la stessa cosa, no, quello no, perché credo che a livello neurologico, adesso non sono un medico, ecco, non è un medico, quindi prima di avventurarsi in affermazioni mediche è meglio documentarsi, Ugo, questo anche bisogna dire, sì. Questo vale per me, ma vale anche per lei. Eh sì, no, ma io un po' mi sono documentato e non credo che non mi risulta che ci sia un'evidenza scientifica che fumarsi, farsi un tiro di uno spinello, fumarsi uno spinello possa provocare i danni cerebrali di cui parla lei e parlano alcuni ascoltatori. È evidente che non stiamo parlando di uno spinello, cioè, è chiaro. E allora vede che mi dà ragione, dipende dalla quantità. Vabbè, però voglio dire, faccia passare un messaggio dove dice, guarda, che probabilmente è estremamente nocivo che un ragazzo, come ha detto il dottore di prima, che a 14 o 15 anni inizia con gli spinelli, ecco. Va bene? Grazie, buona serata. Buonasera a lei, buonasera. Nella vecchia azienda agricola, icola ho, quante bestie allo zio Cesco, esco, ciao, ai pidocchi, occhi, pid, quante bestie allo zio Cesco, tutte su di sé. Adesso facciamo un appello pubblico, chiunque sia vicino in compagnia al ministro dell'agricoltura Maurizio Martina, gli dia una gomitata, perché noi è da un'ora circa che abbiamo preso appuntamento con lui al telefono per commentare una notizia, solo che lui adesso era un convegno, non lo so, si fa un po' il prezioso. E non ci risponde al telefono, o meglio squilla a vuoto, e noi volevamo commentare con lui che cosa? Questa notizia, che è una buona notizia, almeno speriamo, volevamo avere conforto proprio da lui. Terreni del demanio ceduti ai giovani, un bacino di potenziale di 50.000 giovani agricoltori, calcola la Coldiretti. Si tratta di 5.500 ettari di terreni agricoli pubblici, che corrispondono più o meno a 7.000 campi di calcio, che da settembre saranno concessi in affitto oppure ceduti a affitto a canoni agevolati o comunque bassi, ceduti in alcuni casi all'asta se si tratta di terreni che valgono più di 100.000 euro o con accordi a base di offerta, insomma libera, sotto i 100.000 euro a tanti, possibilmente tantissimi aspiranti agricoltori. Questa cosa risolverebbe, da un lato lo Stato incasserebbe un po' di soldini, ci sarebbero meno terre incolte e ci sarebbe una possibilità di lavoro per tanti aspiranti agricoltori. È questo, se siete vicino al ministro Martina, per qualunque motivo, se lo vedete, dategli uno strattone, perché volevamo parlare con lui. Continuiamo a provare a chiamarlo, se ci riusciamo. Se no, ne parliamo magari domani. Albino, intanto da Treviso, buonasera. Buonasera. Buonasera, niente, io mi rifaccio a una cosa che lei ha detto poco tempo, pochi minuti fa, la malafede. Sì. Io dico, le notizie che ha dato l'INAIL non più tardi di 10 giorni fa, in cui c'è il 12 o il 21% in meno di infortuni, perché non si dice che ci sono 300.000 fabbriche in meno e 2 milioni di operai in meno? Sì, questo è vero, c'è la crisi, ecco. Ci sono fabbriche chiuse, quindi ci sono meno incidenti sul lavoro. Perfetto, siccome io vivo io vivo in questa zona dove vengono chiuse, e come è stato detto poco tempo fa, che parlava il tassista, in cui dice giriamo l'Italia, e lei ha detto ma dicono che c'è la ripresa, ma venga a vedere che chiudono 50 negozi o fabbriche al mese e ne aprono 10. Se la ripresa sono quelle 10, ringraziamo Dio. Ma no, io non so se si riferiva, mi scusi, a una cosa che ho detto io. poco fa, un'oretta fa, forse ho detto solo che la retorica del paese morente mi sembra esagerata. Scusi, non finisco. È vero, non è vero, aspetti esagerata. Aspetti un attimo, se no non c'è gusto. Mi faccia dire. E che proprio oggi c'è un dato che riguarda la fiducia delle imprese che è in crescita. Ora, bisogna prendere tutto con le pinze, sicuramente. Non voglio dire che tutto va bene o che c'è la ripresa in atto. Ho detto semplicemente che, ripeto, la retorica del paese morente non mi sembra eccessiva. Mi sembra una generalizzazione che non serve a nessuno, anche se ci sono molte difficoltà. E guarda caso, oggi c'era una buona notizia anche su questo fronte, bisogna ogni tanto guardare anche quelle. Stop, questo ho detto. Sono d'accordo, ma loro parlano di quelle che stanno nascendo, non parlano tutte quelle che stanno chiudendo. E un'altra cosa che ha appena dato la notizia, Radio 24, che l'ho appena sentito, quella degli asili, perfetto, ma si rendono conto, io vivo qua nel nord-est, che ci sono delle ragazze che siccome non trovano lavoro fanno loro da maestre, da babysitter in casa agli asili, perché costano meno che non quelli comunali o quelli statali? E questo ci si rende conto? Al mio paese, solo al mio paese, ce ne sono tre. E tutte quante hanno fino a 6 bambini. E che non li portano all'asilo. Ha capito perché ce ne sono meno bambini che vanno all'asilo? Perché non possono permetterselo tante famiglie. E pagano queste ragazze che sono disoccupate, che tengono i bambini a casa. Sì, però... diciamo che anche questo può essere visto come un segno di cedimento di paese morente, oppure può essere visto come una forma di organizzazione. In Germania, per esempio, i kindergarten o le Tagesmutter, come si chiamano, quelle che tengono 5-6, è una forma, addirittura c'è una filosofia educativa, non mi sembra la fine del mondo, insomma. No, è un modo, però è la notizia che mi dà fastidio, sì. Hai capito? Perché sembra che non lo so, ci sono meno bambini, non è vero. No, ma è certo, ci sono anche problemi nel metterli al mondo i bambini, sicuramente. Appunto, beh, questo è un altro discorso. Però dico, è più sicuro tante volte avere una classe, si può dire, di bambini di 6, che c'è una babysitter o una maestra d'asilo che gli sta dietro perché non trova lavoro, perché sarebbe meglio se trovasse lavoro e gli asili fossero pubblici, per carità, niente da dire. Però esiste questo fatto anche. Va bene, abbiamo capito, Albino, che dire. Grazie anche a lei, buona serata. Adesso fra poco sentiremo un po' anche i titoli dei telegiornali di mezzasera, tra pochissimo. Intanto abbiamo Giuseppe da Caserta, buonasera. Buonasera a tutti. Sì. Il mio intervento è circa naturalmente la marijuana, premettendo che mi riferisco al principio attivo della marijuana, che è il tetroidrocannabinolo. E naturalmente, insomma, parlando in ambito scientifico, va detto che sono stati scoperti proprio nell'organismo umano dei recettori specifici per i cannabinoidi. Quindi vuol dire che il nostro organismo ha di per sé dei recettori per questi cannabinoidi, e successivamente sono state scoperte sostanze interne che noi produciamo che agiscono in ugual modo dei cannabinoidi. Quindi cosa vuol dire questo? Che il nostro organismo produce queste sostanze che in realtà non fanno male in piccole dosi, sono sostanze che ci servono perché hai uno stato di euforia, di attenzione, di rilassamento. Sostanze che noi stessi produciamo, i cannabinoidi non fanno altro che emulare sostanze che noi stessi produciamo, quindi in realtà non fanno assolutamente male, naturalmente sempre nella giusta misura, questi recettori si possono saturare con il tempo e quindi c'è la situazione, però naturalmente non fanno male i cannabinoidi, fa male il fumo perché fa male della combustione, ma farsi gli spinelli con la marijuana, il cui principio attivo è questo tetraidrocannabinolo, non fanno assolutamente male, il loro potere curativo e palliativo. Ok, detto e premesso che su queste spiegazioni scientifiche degli ascoltatori bisogna sempre prenderle con le pinze, mi fate sentire un attimino Enrico Mentana, il preludio al TG? Ancora una volta usare un termine bellico, battaglia, stride di fronte alle battaglie vere, le cui notizie ci arrivano da vari punti caldi del mondo. Ma per tutta questa giornata campale il Senato è stato al centro delle attenzioni politiche, e ancora adesso, mentre vi parliamo, possiamo andare per qualche istante all'assemblea di Palazzo Madama, possiamo vedere come... Vi leggo una notizia, poi forse la commenterà anche lui. Poco fa l'Aula del Senato ha bocciato un emendamento di SEL e in base alla cosiddetta legge del canguro sono decaduti d'un colpo altri 1400 emendamenti alle riforme, quindi un colpo, diciamo, all'ostruzionismo delle opposizioni. Sentiamo ancora Mentana se va avanti. Tensioni. Prima la proposta di mediazione di Chiti, il leader della minoranza del PD, Scusate regia, c'è l'audio di queste immagini? Non ho mai visto. Va bene, questo è La 7, tra poco proveremo anche a sentire i titoli del TG. Ed ecco allora i titoli dei telegiornali, cominciamo col TG1. Riforma del Senato, fallisce l'ultima mediazione, le opposizioni non ritirano gli emendamenti, in aula si rivolta ed è bagarre. Il governo, la posizione di SEL preclude Alleanze Future, le riforme servono al paese, Vendola, non ci pieghiamo ai ricatti. A Gaza la giornata più sanguinosa, Israele intensifica i raid sulla striscia, risposta da Hamas, in fiamme la centrale elettrica. Sindacati in piazza a Montecitorio contro il rischio di chiusura degli stabilimenti dell'ENI, Camusso, intervenga il governo. Ancora un inchino ad un boss durante una processione, accaduto a Palermo, il parroco, la Madonna di tutti, Don Ciotti, isolare i mafiosi. Maltempo, allagamenti e frane in Piemonte e Lombardia, giovedì migliora, ferie d'agosto, non c'è più l'esodo di una volta. Il Colosseo ritrova il suo splendore, tolti i primi ponteggi dei lavori di restauro, l'anfiteatro Flavio recupera i suoi colori, non ci sono più alibi per i miei colleghi imprenditori, dice Diego Della Valle, sponsor dell'iniziativa. Va bene, questo è il TG1 su Colosseo, interrompiamo e sentiamo al volo anche La 7, va. Sulle riforme costituzionali, dopo la lettera di Renzi con le aperture sulla legge elettorale, fallisce la mediazione del dissidente PD Chiti, che aveva prospettato una riduzione degli emendamenti in cambio del rinvio a settembre del voto definitivo. Proposta bocciata da SEL, che ha presentato 6.000 emendamenti. Il PD e il partito di Vendola, mai più alleati. Nel pomeriggio, disinnescato il primo emendamento con il voto segreto, separato in più parti. Lega e 5 Stelle contestano pesantemente Grasso. Si vota e per ora non ci sono sorprese per la maggioranza. La giornata più sanguinosa per Gaza, almeno 100 palestinesi sarebbero stati uccisi oggi dai raid israeliani. Israele bombarda i generatori, la città è da quasi 24 ore senza energia elettrica. Continuano incessanti i lanci di razzi verso il territorio israeliano. Annunciata da un diretto collaboratore di Abu Mazen e subito smentita da Hamas, la notizia di una tregua. La guerra va avanti. Ci sono prove evidenti di lancio di razzi e colpi d'artiglieria dalla Russia verso il territorio ucraino. L'accusa è di John Kerry, che annuncia sanzioni più aspre contro Mosca, decise dagli Stati Uniti ma anche dai 28 paesi dell'Europa Unita. Quindi sono in arrivo e vedremo, sono sanzioni economiche e diplomatiche. Ma un'altra guerra civile è quella che infiamma la Libia, è ancora fuori controllo il gigantesco incendio scoppiato ormai 36 ore fa nei pressi dell'aeroporto di Tripoli, quando un razzo sparato dai miliziani ha centrato una cisterna con 6 milioni di litri di carburante. La tregua, intanto, di 24 ore concordata tra le fazioni non ha fermato i combattimenti, scappano tutti i diplomatici, resta aperta solo l'ambasciata italiana. Va bene, sfumiamo sui titoli della 7 perché altrimenti andiamo lunghissimi, perché come sappiamo Mentana si prende tutto il tempo che serve. Nico dalla provincia di Varese, 800 24 00 24, buonasera. Buonasera Alessio, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano, grazie per lo spazio. Io mi allaccio al simpaticissimo discorso del signor Giampaolo, sì. diversamente giovane. Vorrei incoraggiare tutti coloro che così vedono il bicchiere mezzo vuoto. Brevemente, 11 anni fa con altre persone, altri tre soci, abbiamo iniziato un'avventura e ci porta ad essere quest'anno con 147 dipendenti, ad essere la prima azienda italiana del nostro settore, e fattureremo circa 50 milioni. Può fare, quindi. Io vorrei incoraggiare i giovani a veramente non disarmare di fronte a queste difficoltà che ci sono e vanno superate, si possono superare, credetemi. Noi non abbiamo avuto nessun sciopero contro l'azienda proprio perché tutti quanti siamo animati da energia, voglia di fare e voglia di vincere sui mercati internazionali. Nico, mi sono perso un attimo una cosa, stavo guardando le agenzie. Prego. Sul Senato, mi scusi, non si dovrebbe fare mentre lei parlava, però ci sono questi aggiornamenti. Sì. Qual è il settore nel quale operate? Settore antincendio. Perché ride? No, perché stiamo parlando purtroppo di incendi, no? E quindi sì. Conosco benissimo quel terminale petrolifero che si trova sulla strada principale che si chiama Tariq el Matar, che dall'aeroporto porta a Tripoli. C'è stato più di una volta lei? C'è stato 132 volte in questo paese, quindi lo conosco abbastanza bene. Ha tenuto il conto delle volte che c'è stato? 132 volte? Sì, perché verso l'ottantesima volta qualcuno mi ha chiesto: ma quante volte ci sei stato? Allora ho preso tutti i miei passaporti che ho conservato, contatti visti, da allora mi diverto a contarle. È un bel paese, è un paese che mi fa soffrire perché ho molti amici, è un paese importante per noi e spero proprio che nel più breve tempo possibile riescano a pacificarsi queste fazioni, ma sarà molto molto molto duro. Quindi, va bene Nico, grazie anche per la sua iniezione di giovani. Io ho 67 anni ma mi sento ancora un quarantenne, diversamente sicuro. Giovane esattamente, grazie ancora per avermi ospitato. Grazie a lei, buona serata. Adesso è il momento di uno dei nostri appuntamenti fissi, uno dei nostri amici. Lui è Daniel Tarozzi e ci invita a conoscere insieme a lui l'Italia che cambia, possibilmente in meglio. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Italia sì, Italia no, Italia boom, la terra dei cachi. Ciao Daniel, buona serata. Ciao, buona serata a tutti. Ciao, per chi è abituato, diciamo abitué di Si può fare, quello del weekend, il sabato e la domenica mattina su Radio 24, Daniel Tarozzi lo conosce perché ci accompagna quasi dall'inizio. Un giornalista, ha fatto un viaggio in camper nell'Italia, in Italia alla ricerca di posti dove, come diceva Nico, insomma si cerca di avere delle iniezioni di fiducia e l'Italia cambia in meglio. Adesso tutto questo sta diventando un portale, un sito nel quale volete mappare. Che cosa, Daniel, ricordacelo, vai. Vogliamo mappare e rendere evidenti e sempre più visibili le tantissime realtà che, lontano dai riflettori dei mass media, riescono a cambiare concretamente le cose. Io, come accennavi, ho girato 7 mesi con un vecchio camper tutte le regioni italiane e ho scoperto che accanto alla decadenza e allo squallore che fin troppo bene conosciamo, esiste un'altra Italia, un'Italia altrettanto forte e reale, che è fatta di milioni di persone che non sono quelle che conosciamo, che, come diceva quel signore poco fa, realizzano progetti imprenditoriali, associazioni, movimenti di tutti i tipi, e quindi la nostra idea è di raccontarle, perché vogliamo creare esempi, vogliamo far sì che chi magari è giovane ed è alla ricerca sappia che cosa può fare, che ci sono degli sbocchi possibili, è vero, è il cortocircuito dal quale anche noi Si può fare stiamo cercando un po' di uscire, per quanto ci compete nel vasto mondo mediatico. Daniel, facciamo qualche esempio, perché abbiamo deciso di sentirti una volta almeno a settimana, più o meno, adesso vedremo, perché il tuo viaggio continua, il portale italiachecambia.org è in continuo aggiornamento, avete fatto anche una raccolta fondi, un crowdfunding proprio per creare questa interattività, ognuno può segnalare eccetera. Stasera di che cosa ci parli? Ma per cominciare, visto che tra l'altro purtroppo i nostri telegiornali sono costellati da notizie di guerre, e quasi tutte queste guerre sono nei paesi arabi, volevo parlarvi del Kite Gen, che è un'esperienza italiana, italianissima, che nasce in Piemonte da Massimo Ippolito, un ingegnere che ormai molti anni fa ha avuto questa idea di sfruttare un principio basilare, che è quello dell'aquilone, no? Presente l'aquilone con cui giocano i bambini in spiaggia, e lui ha detto: e se io costruissi un aquilone enorme con un mega braccio e con una enorme vela che va nei venti, quelli in alto, quelli della troposfera, sì. Perché lui sapeva che questi venti sono praticamente costanti tutto l'anno e che se si riuscisse a sfruttarli per creare un eolico ad alta quota, si potrebbe creare una fonte di energia inesauribile e veramente con una presa pazzesca. Perché sappiamo che l'eolico è una delle energie, diciamo, rinnovabili su cui si sta puntando, non ha, diciamo, delle grosse capacità di potenza, ora io non so esprimermi in termini corretti, però non sviluppa grandi potenze proprio perché il vento a volte c'è, a volte non c'è, e poi la tecnica, diciamo, di sfruttamento è tale. Invece questo ingegnere ha pensato di andare in alta quota con dei bracci, ed è un'idea eccezionale, e però per quanto riguarda poi la realizzazione di questa cosa, Daniel, quando tu l'hai conosciuto, a che punto è? No, l'idea è eccezionale ed è anche molto concreta. Pensa che costruendo in un campo da calcio 100 di questi bracci si potrebbe coprire una città come Roma, come fa bisogno energetico. Quindi parliamo, cioè, in un campo da calcio 100 bracci che vanno in alto credo per qualche centinaio, forse addirittura più metri, si può coprire il fabbisogno di una città come Roma. Esatto, esattamente. Quindi parliamo veramente di una tecnologia che può essere incredibile. Lui che problema aveva quando l'ho incontrato? Ma poi abbiamo anche l'evoluzione. Quando l'ho incontrato un anno e mezzo fa, il suo problema era che ovviamente questa tecnologia, essendo all'avanguardia totale, richiede molti fondi per la ricerca, perché anche solo il cavo d'acciaio, che non è di acciaio in realtà, che deve tenere questo enorme aquilone, sai, per noi è facile dire facciamo un cavo, ma ci vuole un cavo che subisca un'enorme forza senza spezzarsi, che sia governabile, perché tu devi tirare giù questo aquilone in base a come va il vento, il computer deve dirti monitorare tutti i venti e così via. E lui aveva vinto anche diversi bandi, che però poi ogni volta i governi hanno dirottato i fondi dei bandi che aveva vinto ad altre cose considerate più urgenti. Alla fine, dopo anni di ricerche, da chi è stato finanziato? Dagli arabi. No. Come hanno il petrolio. Ma come? Dagli arabi che hanno il petrolio, è pazzesco. Sì, ha avuto i soldi dagli arabi questo ingegnere piemontese. Sì, e adesso dove vive? In Arabia Saudita. È rimasto in Piemonte, 100 persone stanno lavorando a questo progetto, italiane, la tecnologia resta italiana, loro si sono presi l'esclusiva per i paesi arabi, però non per il resto del mondo. Speriamo. E finalmente sta lavorando a questa cosa. Però è ancora una volta l'esempio di come in Italia ci siano le possibilità, ci sia la concretezza, ci siano le menti e si possano anche realizzare i progetti. Ora questo se ne è andato a trovare nei paesi arabi soldi, ma non era solo un problema italiano, perché lui mi ha detto che anche gli altri paesi europei, la comunità europea di fatto non hanno mai stata a sentire. Tanto è un'idea straordinaria, ma pensate davvero, dei bracci d'acciaio lunghissimi, però tutti vicini in qualche modo, quindi non c'è neanche il problema di occupare troppo spazio, che vanno in alto, pescano i venti, quelli forti, e producono energia per alimentare una città come Roma. Storia pazzesca questa, se non la trovavo nel libro di Daniel Tarozzi non c'era da nessuna parte. Daniel, da un esperimento, un progetto, una speranza di questo inventore, so che c'è anche un'altra realtà sempre di impresa invece positiva che ci volevi raccontare dal Veneto. Sì, permettimi solo di aggiungere un ultimo dato su questa, che se lui mi diceva che sfruttando questi eventi in modo saggio in tutto il mondo si potrebbe coprire 270 volte il fabbisogno mondiale di energia, quindi oddio, se ci rendiamo conto. Comunque il libro si chiama Io faccio così, che è la risposta che mi hanno dato tutti quelli che incontravo, no? Che era di fronte ai problemi io mi invento una soluzione. Per esempio c'è il problema energetico e io sviluppo il Kaigen, che di cui abbiamo parlato, oppure in Veneto la mia azienda, la mega multinazionale per cui lavoro, mi ordina a me manager di licenziare tutti e di essere trasferito in Ungheria. Io ritengo che il mio prodotto sia di eccellenza e allora cosa faccio? Riapro senza la multinazionale. Della storia che vi sto per raccontare ora, che è la storia della Galilei Refrigerazione, che è una storia che inizia in modo triste anche qui, perché appunto questa multinazionale aveva questa sede italiana, che è l'ex Carrier, che produceva dei refrigeratori, dei frigoriferi da supermercato, però dei frigoriferi speciali, perché in Italia come al solito noi siamo nell'eccellenza. Questi frigoriferi andavano nei supermercati europei di lusso, quindi era un prodotto molto specifico, con un target specifico, solo che ovviamente non era nella omologazione, non loro volevano omologare tutte, quindi hanno chiuso l'azienda e hanno ordinato a questo barbiero, che era l'amministratore delegato a Padova di questa azienda, licenzia tutti. Ora lui ha dovuto farlo per forza perché era un dipendente, però una volta licenziato tutti ha detto io piuttosto che andare in Ungheria mi licenzio anch'io. Si sono licenziati tre manager, che io ho parlato con lui e con il suo socio che è Michele Consolani, e c'è anche un terzo socio che non ho conosciuto, e questi tre hanno deciso di riaprire, quindi hanno chiesto aiuto, hanno preso un piccolo finanziamento, hanno trovato anche una solidarietà enorme nelle varie realtà, nei fornitori eccetera, hanno riaperto in Veneto nello stesso luogo la stessa azienda, cambiandogli nome praticamente, la Galilei Refrigerazione, che praticamente sta ripuntando a prendere quel pezzo di mercato, andando in concorrenza con i loro vecchi padroni cosiddetti e cercando di riassumere quelli che avevano dovuto licenziare. Quando li ho incontrati io erano partiti da poco, ne avevano assunti 5, oggi ne hanno assunti già 12 e puntano nel tempo a riassumerli tutti, insomma. Straordinario, il Veneto, sentite che potenza anche qua, via la multinazionale, si riparte dal basso. E non solo, loro mi dicevano che lavoravano con un entusiasmo che non avevano mai conosciuto, con una capacità anche di realizzare, che dicevano quando tu lavori per te stesso è completamente diverso da essere magari schiacciato da quella logica assurde, decise. Pensavo, una delle cose che mi è rimasta più impressa era che mi raccontava questo signore che per i mercati della finanza un'azienda che aveva appena licenziato 10.000 persone licenziate era stata premiata dagli analisti finanziari, no? E loro mi dicevano, ma 10.000 persone in meno che guadagnano, che impatto hanno sull'economia? No? Ah, ma questo non gliene frega nulla, naturalmente, a quelli, no? che la finanziano. È un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa. Daniel Tarozzi, grazie intanto per essere stato con noi. Questo era il primo dei nostri collegamenti con l'Italia che cambia. Ci sentiamo sicuramente la settimana prossima, insomma, nei prossimi giorni. Intanto, probabilmente sempre di martedì. Grazie. .org, non dimentichiamolo mai. Sì, italiachecambia.org, certo. Grazie. Ciao Daniel, buona serata. Ciao, buona. Si può fare, si può prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare l'attualità anche d'estate. E allora c'è un SMS di Roy che dice: non trattate argomenti così delicati come il consumo di cannabis da parte degli adolescenti senza adeguata conoscenza del problema. Ve lo dice un quarantenne tossicodipendente che ha iniziato i suoi guai con uno spinello e il motto usare con moderazione. Roy, sì, però non è che tutti quelli che hanno fumato uno spinello poi sono diventati tossicodipendenti. Così come è vero che tutti gli alcolizzati che ci sono hanno iniziato bevendo poco, ma non tutti quelli che hanno bevuto un bicchiere di vino sono poi diventati alcolizzati. Non so se ci capiamo da questo punto di vista. O vietiamo tutto, e secondo me è sbagliato, oppure non vietiamo niente, cerchiamo però di capire quello che stiamo facendo. Ciro da Napoli, buonasera. Buonasera. Senta, volevo parlare a proposito della cannabis. Sì. Qua parliamo fa male, fa bene, legalizzarlo meno. Secondo me bisognerebbe legalizzarla subito, perché praticamente la cannabis, cioè i ragazzi che la fumano la vedono dal binocolo, voglio dire, quella è tagliata con un sacco di schifezze. Cioè, e dice, fumano tutto tranne che cannabis, veramente. Tranne che cannabis. Io sento delle cose assurde, che la mettono a bagno nel metadone, per dirti. Cioè, ragazzi che sono a fumare. Anche questo è vero, anche questo. Cioè, i mercati neri delle droghe o comunque delle sostanze sono... Sì. Siamo a blaterare se legalizzarlo o meno. Qua stanno rovinando generazioni intere. Legalizziamo, facciamo come ad Amsterdam. Almeno si fumano... i cannabinoidi, chiaramente con cautela, con tutte le regole, senza scassarsi troppo, però ma è una cosa, sì, sì, Ciro, ho capito. Che non ne parla nessuno. Ho capito. Questo è un elemento della discussione, è un argomento. È una cosa gravissima. Sì. Ragazzi di 15 anni non decidono di farsi gli oppiacei. Ripassa la malavita. Va bene, grazie Ciro. Questo è uno degli argomenti, tra l'altro, di quelli favorevoli alla legalizzazione, che si passerebbe, diciamo, da un mercato nero con tutti i rischi connessi a un mercato, diciamo, legale e forse più sicuro, come diceva Ciro, da questo punto di vista. Leopoldo da Roma, buonasera. Leopoldo da Roma, non so se... è lì che a cena, ha lasciato il telefono di lato con la moglie, adesso stanno decidendo cosa mangiare di secondo, e quindi Leopoldo, mi dispiace, ma non riusciamo a farlo parlare. Sentiamo Davis da Lecco. Sì, buonasera a tutti. Buonasera. Niente, vedevo che la vostra trasmissione finalmente divulga delle informazioni interessanti, e io volevo di biocarburanti di seconda generazione. Cioè utilizzare oli di scarto di frittura, esempio della friggitrice, sì, per produrre dei carburanti a livello della potenzialità del diesel. Premessa che in Italia la gente non lo sa, ma quando va dal benzinaio a fare il diesel, il 7% è olio fritto. No, viene processato, lavorato e prodotto a normativa europea 14-214, che è la paritaria della 590, che è il diesel, sì, normativa europea. E però la gente non sa che il 7% del carburante che immette nel serbatoio è biodiesel. Vabbè, però l'importante è farlo più che saperlo, poi se uno lo sa è anche meglio. No, è molto importante, perché le spiego il perché. Perché? L'Europa vuole che questo valore del 7% diventi il 10%, perché il biodiesel di seconda generazione ha delle potenzialità molto importanti, cioè 80% di CO2 in meno e 65% di particolato PM10 in meno. Il discorso è che l'Europa spinge ad aumentare questo valore, invece l'attuale governo Renzi vuole portare questo valore al 3%, e questo è uno schiaffo all'intelligenza. Cioè, il governo Renzi vuol portare il livello di biodiesel dentro il diesel dal 7 al 3%? Dal 3 al 4%. E cosa succederà? In Italia la gente non lo sa, Questa notizia me l'ero persa, non lo sapevo. Dove sta questa cosa? In che decreto sta? Informatevi bene. In che decreto sta questa cosa? Gli ultimi decreti. Gli ultimi decreti. Sì, va bene, Davis, ha fatto bene a dircelo, bisogna studiare. In redazione, cominciate a studiare questa cosa qua, domani avremo qualche informazione in più. Buona serata, grazie. Sergio da Livorno. Buonasera. Buonasera. Era per una mia esperienza. Sì. Io volevo parlare No, lo sentiamo male però, Sergio. Mi sa che è meglio se proviamo a richiamarlo. Intanto facciamo... facciamo Daniele da Salerno. Pronto, buonasera. Buonasera. Allora, io mi sono reso conto che la situazione viene trattata con superficialità riguardo al consumo di Spinelli. Sì. Io non ho sentito nessuno dei radioascoltatori che parla di assuefazione. Cioè, sappiamo benissimo che l'uso della droga, delle sostanze stupefacenti, stimolano la dopamina nel cervello, dando benessere al cervello. Sì. Perché lo scopo quello è dare benessere al cervello. Ora, che succede? Nel momento in cui quel benessere non mi basta più, ne voglio di più, io non, dallo spinello passo ad una droga più pesante. Queste non sono parole mie. E di chi sono queste parole? Io porto una divisa e durante i corsi di aggiornamento che facciamo vengono psichiatri, sì, medici, psicologi, tossicologi e ci spiegano tutte queste cose. Ma vi spiegano anche che vi spiegano anche, per esempio, che le sigarette uccidono, che fanno venire il cancro? Sì, però la differenza qual è? Se mi fumo una sigaretta, la mia percezione della distanza, i riflessi e tutto ciò che mi circonda rimane invariato. Ma se io mi faccio una bella canna, questo è vero, questo io l'ho detto subito, questa è una cosa verissima. Certo, bisogna farsi, se uno si vuole fare una canna, se la fa a casa sua, non è che si deve mettere in macchina e guidare la macchina, assolutamente. Allora, se il governo vuole, o anche i cittadini vogliono lo spinello libero, che ci siano delle leggi, che ci siano delle leggi che se qualcuno viene beccato alla guida di un autoveicolo, di un tir. Sì, sì, devono essere severissimi. Io su questo sono più di quello che sono adesso, anche se sono stato già inasprite, credo anche recentemente. Però su questo lei ha, per me almeno, per come la vedo io, perfettamente ragione. Grazie. Ripeschiamo proprio prima. Sergio da Livorno, buonasera. Sì, buonasera. Eccolo. Per me, io sono un fumatore di marijuana. Oh, finalmente un reo confesso. Da quando avevo 18 anni. Sì. Ne ho circa 50, quindi fanno ancora 32. E devo dire che fortunatamente non ho tutti quei problemi che qualcuno elenca. Facciamo un test, facciamo un test. Non lo so. 6x8. 48. Madonna che velocità, bravo, basta. Vedi? Vedete ascoltatori? Niente, 32 anni di Spinelli, ha risposto in 2 secondi. Bravo, meno. Attenzione, faccio un lavoro un po' particolare, non dico quale, non lo dico. Però? Ovviamente lo faccio quando sono in relax. No, dunque, ovviamente, allora lei cioè, fuma gli Spinelli vita. Quando è in relax, perché fa un lavoro un po' particolare. Sì. Che però, diciamo, in che ambito siamo? Ce lo può accennare? Trasporto. Ah, ecco. Ovviamente quando sono alla guida no. Cioè, quindi lei è così, diciamo, consapevole, responsabile, certo, cosciente certo. di quello che fa, che fuma certo. da 32 anni ogni certo. tanto uno spinello a casa la sera. E posso garantire, ora io non voglio che tutti fumino marijuana. No, ognuno fa quello che può, certo. Però voglio dire, sono in grado di poter smettere quando voglio perché sono sottoposto a certi controlli. Ma lei la domanda forse stupida e magari anche irrispettosa, a quanti incidenti ha fatto gli incidenti? Io faccio circa 100.000 chilometri l'anno, sì. Sono in prima classe con la vettura e con il camion, non ho mai avuto incidenti. Quindi, vabbè, insomma, cari ascoltatori, se volete crederci, poi se no fate come vi pare. Infatti, se vogliono crederci, non voglio istigare nessuno a fumare marijuana, ci mancherebbe altro. Però, lei ci sta raccontando la sua di esperienza. Non è quello che si dice e non dà dipendenza. lo posso garantire, perché io ne sono un esempio, sono sottoposto a un controllo una volta l'anno e sono in grado di poter smettere un mese, due mesi prima del controllo. E il discorso che si dice che si passa dalle canne alle droghe più pesanti? No, lei che no, se ne no. intende? No, no, no, proprio è assurdo. È assurdo. Ha fatto un esempio lei del bicchiere di vino, dovremmo essere tutti alcolizzati. Sì. Sì. Oh no. Oppure tutti i bevitori di superalcolici perché si è iniziato col vino e poi si finisce col whisky, non è proprio così. Perfetto, sì. Qualcuno mi ha preceduto anche prima, nelle telefonate prima, sicuramente sono del parere che questa non legalizzazione faccia comodo a certi personaggi, che forse sono anche in politica, e che hanno tutto l'interesse a non legalizzare. Mm. Dal punto mio, di vista mio, poi ognuno trae le proprie conclusioni. Se tutti gli altri paesi nel mondo incominciano a legalizzare, anche se a solo a scopo terapeutico, voglio dire, insomma, forse non fa male quanto si dice. E credo di essere voglio dire, 32 anni che faccio canne, non è che dalla mattina alla sera, ripeto, anche perché faccio un lavoro particolare e di conseguenza non è che mi sveglio la mattina e comincio a fumare canne. Però scusi, se lo sapessero quelli, i suoi responsabili, ci sarebbe un problema. Sarebbe un problema. Certo. Perché non si può. Per quello ho dato nome falso e località falsa. Grandissimo Sergio, mi sembra giusto. Beh, è ovvio, non è che uno può andare incontro per una telefonata Radio 24 a perdere il lavoro. Però mi raccomando, se quello che ci ha detto è vero, questo lo voglio dire, ha tutta la mia stima, perché è esattamente quello che intendevo io, cioè l'estrema consapevolezza. Si può avere un comportamento privatamente anche di sballo, di piccolo sballo, come può essere uno spinello, senza far male a nessuno. Basta non farlo quando si è al lavoro, quando si guida. È il solito discorso del bicchiere di vino. Ecco, e vale per tutto, e vale per tutto. Quindi Sergio, grazie. Sono dell'opinione che tutto fa male e niente fa male. E sono le dosi che poi danno il riscontro. Se io mi alzo la mattina e comincio a bere il vino, ovviamente non mi farà bene. Se bevo un bicchiere di vino a pasto, sicuramente mi sarà anche consigliato, forse. Sì, penso. Sì, perché poi anche questa cosa va a ondate, cioè il periodo in cui lo consigliano, addirittura qualcuno parlava che il fumo facesse bene. Questa mi sembrava proprio una follia. Comunque, Sergio, grazie, buona serata. Altrettanto, salve. Nome di fantasia, Pierluigi dalla provincia di Roma. Buonasera, mi sentite? Sì, forte e chiaro. Allora, io voglio soltanto raccontare la mia esperienza lavorativa. Io sono un farmacista ospedaliero, sì, e ho distribuito metadone per conto dello Stato, ovviamente. Dal giorno successivo, dall'entrata in vigore del decreto Aniasi, per quasi 10 anni, finché non sono passato di grado. Che anno era, scusi, il decreto Aniasi, giusto per ricordarlo? Erano i primi anni 80. Mm. E la cosa è andata avanti fino alla fine degli anni 80. Allora, la mia esperienza è questa. Numero uno, non è vero che tutti quelli che fumano lo spinello finiscono per bucarsi, ma è vero, sulla mia esperienza, che tutti quelli che si bucano sono passati per lo spinello. Quindi questa qui è una circostanza che dovrebbe far riflettere. In che senso dovrebbe far riflettere? Che probabilmente lo spinello non è una cosa scevra di rischi. Cioè, può essere una porta per arrivare alle droghe, sì. Però mi scusi, ma non si torna al discorso che facevo io. Cioè, anche bere un bicchiere di vino può essere la porta per l'alcolismo. Però allora o proviamo il vino, oppure pensiamo che l'alcolismo possa essere tollerato. Non è un po' la stessa cosa? Le dico una cosa, io sto portando la mia esperienza, non entro nel merito. Va bene, è giusto, è giusto. L'esperienza che do, le dico che io sono per la liberazione delle droghe, non quelle leggere, quelle pesanti, tutte, perché nella mia esperienza ho trattato oltre 1000 tossicodipendenti e ne è uscito fuori uno solo, uno cioè solo. Su 1000 solo uno è uscito fuori dalla droga? Su più di 1000, a distanza ormai di io ho smesso di fare questo tipo di lavoro. Dobbiamo salutarla Pierluigi, grazie, perché siamo davvero in chiusura, abbiamo tirato anche fin troppo in lungo. Grazie a tutti, ci sentiamo domani dalle 18 alle 20:30 con Si può fare. Ciao, buona serata ad Alessio Maurizi, grazie anche a Lorenzo Nespoli, Camilla Tomadini, Riccardo Poli e Fabio Cantadori. A domani.